certo siete finiti voi, finiti. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano. La zanzara. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto tu ci piaci, per questo sei il pensiero che ci guiderà. Il sogno riparte da qua, diventa realtà. Silvio, Silvio, forever sarà un popolo di libertà. E beh, è arrivato l'annuncio, caro Parenzo. Addio, addio, addio. Chiusa, beh, la Claire. Chissà. Abbassata. Chissà, chissà. Ciao. Dopo 18 anni, ciao. Ciao Silvio, ciao. Grande atto d'amore hai fatto oggi. Un grande atto d'amore. E quale sarebbe l'atto d'amore? Dire che non si presenta un grande come candidato. Ha detto lui. Ma verso il chi? Verso tutti gli italiani, amico mio. Verso gli italiani. Atto d'amore, si chiude un'epoca come il muro di Berlino. Abbassata la Claire. Ciao, ciao, ciao Cicchitto. Ciao Verdini. Ciao Cosentino. Voi che siete in autostrada sul grande raccordo anulare, mollate il volante. Acceleratore a 220. Battete le mani con me. Ciao Verdini. Ciao Cicchitto. Ciao, ciao. Grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie. Spettacolo finito. Arrivederci. Ma non è detto che ciao. Sia finito per queste persone. Ciao. Non è detta che sia battete finita. Battete le mani con noi. Musica. Silvio per noi. Beh, il nostro amico Paolo Liguori, signor Liguori, ah, bravo, Liguori. Aveva previsto tutto, eh. Come? Ma è alle sue fonti, signor Liguori, eh. Beh, sì, signor Liguori. Paolo Liguori, direttore di non so che cosa. Come? Di direttore di cosa? Di... intanto il direttore. Sì, il direttore, non scusa, direttore non si candida a Berlusconi e torna al prefiorito. Ieri, questo ieri l'aveva detto. Comunque oggi la notizia è questa: Berlusconi ha annunciato che forse ci saranno le primarie il 16 dicembre. Ma come forse? Il nome del suo... lui l'ha annunciato, poi sì. Bisogna vedere, no? Primarie il 16 dicembre, il mio successore entro dicembre e io non mi candido premier, ma comunque rimarrà molto probabilmente in Parlamento, altrimenti potrebbero scattare le manette. E beh, dicono. No, dicono, per sopraggiunti limiti di anzianità. No, dico, comunque, Liguori, sentiamo. Ma sull'aspetto PDL io credo che Berlusconi sia deciso a non candidarsi mai più lui col PDL e possibilmente a non avere più un PDL, ma magari tornare a questa sigla Forza Italia che lo riporta, come si può dire, ad un prefiorito. Beh, nessuno potrà dimenticare, caro Liguori, quello che ha combinato il signor Fiorito, eh. Questo non c'è dubbio, eh. Qualcuno ha detto, insomma, la vicenda Fiorito ha marcato, no, il nome del PDL in maniera definitiva. Questo sicuro. Sicuro. Chissà perché oggi è la giornata in cui Berlusconi annuncia il ritiro, sostanzialmente, sì? Mentre Montezemolo si ritira dall'alta velocità dei treni. C'è un legame tra queste due cose? Chissà. Dicendo che però non si candida direttamente. Chissà, chissà. Crozza ieri sera su Berlusconi e il Viagra, sentite. Dunque, dopo le dichiarazioni di Berlusconi, che con le ragazze ad Arcore non è successo niente, i produttori del Viagra hanno subito aggiornato le avvertenze: può provocare danni alla memoria. Questo. Comunque, la realtà è questa: voi ci credete o no all'addio di Berlusconi? Perché l'uomo ci ha abituato a tutto, eh. Annunci pochi mesi fa, era luglio, aveva detto che si sarebbe ricandidato, poi sono successe tante cose, adesso annuncia l'addio, chissà, ma non è mai detta l'ultima parola. Ma avrà visto i sondaggi, avrà fatto fare un sondaggino ai suoi, ha visto che anche il suo nome ormai non tira più, e su questo non voglio fare, come dire, allusioni di alcun tipo, ma non tira più, e quindi dice faccio un passo indietro. Bauro, sentiamo Bauro, addirittura la Fornero, la cattiveria della Fornero, Fornero è peggio di Berlusconi. Mauro, signor Mauro, mi sembra esagerato. Io sono un grande sostenitore della signora Fornero, un grandissimo sostenitore, anche quando fa queste battute scegliendo un inglese un po' snob, però mi piace moltissimo la signora Fornero, mi piace moltissimo. Capisco che a Mauro, che è un operaista così combattivo, possa non piacere, però addirittura peggio di Berlusconi, non esageriamo, su Mauro. Bisogna essere cattivi per dire una cosa, cioè, Berlusconi diceva delle barzellette cretine, questa non dice delle barzellette, dice delle buffonate, perché questa è una buffonata seppur detta in inglese, però con dentro una cattiveria che può fare veramente invidia a Silvio, che devo dire? La musica va alla ricerca di un nuovo nemico. Mauro l'ha trovato nella Fornero. Bisogna sempre trovare dei nemici, è giusto che sia così, eh? Anche noi troviamo ogni tanto dei nemici, delle persone da pungere, delle persone da distruggere, da scarnificare, no Parenzo? Giusto? Beh, il suo linguaggio è sempre molto alla Tarantino, il suo linguaggio, linguaggio un po'... Adesso non esageriamo, che c'entra Tarantino? Un po' pulp. Stai esagerando, un po' pulp. Stai esagerando. Scarnificare Grillo, beh, voglio sentire Grillo, però a proposito di nemici, di persone, no, a proposito di stronzate. La Frignero non può dirmi di prendere qualsiasi di lavoro, sentite, La Frignero che ha detto: ma voi giovani dovete entrare e prendere qualsiasi lavoro. Un cazzo prendo qualsiasi lavoro, io devo prendere un lavoro dignitoso che si confà con le mie possibilità, non qualsiasi lavoro. Ma che cazzo di ragionamento fa? Eh no, caro Grillo, non è che c'è lavoro assicurato per tutti. Se uno si iscrive, come dico io, alla facoltà di lettere e sa che dopo non troverà nulla, fa un errore all'inizio. Non è che dopo qualcuno deve assicurargli per forza un lavoro, non è detto, non è detto. Bene, 800 24 00 24, passo indietro, no, è uno degli argomenti di questa sera. Ci sono anche le indagini sulla segretaria di Bersani, indagata per truffa, Zoia, su una vicenda un po' complicata, insomma ve la riassumo. C'è un esposto da parte di un esponente adesso di Futura Libertà, Raisi, all'epoca del Popolo della Libertà, il quale dice che sostanzialmente la segretaria di Bersani è andata a Roma con un lavoro della regione Emilia-Romagna che poi non ha mai fatto e dunque è indagata per truffa, cioè pagata dall'Emilia-Romagna mentre per un faceva... lavoro che non ha mai svolto in realtà per la regione Emilia-Romagna, in realtà era la segretaria di Bersani e faceva un lavoro solamente per Bersani. Questa è più o meno l'indagine, indagata per truffa. 800 24 00 24, è con noi in studio, studio qui a Roma, Alessandra Moretti, buonasera. Benvenuta, buonasera, applausi, abbiamo gli applausi. Buonasera a voi. Grande protagonista dei talk show in televisione, ma lei è come il prezzemolino, la vedo ovunque, come mai? È molto richiesta, come mai? Richiesta, sì. Portavoce, una dei portavoce della campagna di Bersani, come si può, qual è la definizione esatta? Portavoce della campagna di Bersani. Scelta anche perché, insomma, è una bella presenza, bisogna dire. Ti confermiamo. O no, scelta anche, no, sto scherzando. È una, insomma, è un'insinuazione, una brutta insinuazione. No, no, beh, in politica non è che... Conta la bellezza, su. Conta sempre la bellezza, purtroppo, in questo mondo. Conta sempre un po'. Per Parenzo non si direbbe, veramente. Bene, ma è un bell'uomo. No, bell'uomo, Parenzo. Se lo dice perché è vicentino, del padovano... La signora Moretti è una donna di gusto, come ha dimostrato anche... No, ma no. Senta, qual è il suo più grande... Sei molto brutto, tu. Sei molto brutto. La prima domanda... Lo dica, però... Qual è il segreto del suo successo, signora Moretti? Ma dov'è il successo per adesso? Scusa, non c'è nessun successo. Per quello che aveva, però è molto brutto Parenzo. No, lo è dica. Brutto Parenzo. Non è brutto. Anche lei è carino, devo dire. No, io sono meglio di Parenzo. Io sono decisamente meglio. No, come meno? Cioè, molto di più. Che lui è un po'. Senta, lei è felice che Berlusconi non si ricandida? Ma insomma, è una scelta importante perché insomma darà spazio a qualcun altro e soprattutto finisce una stagione, la stagione del berlusconismo, e quindi insomma siamo tutti un po' più liberi. Ma no, cioè, liberi no, liberi no. Insomma, sente un odore però, diverso. Insomma, dai, rinnovamento anche nel PDL. Ma non lo sente? Un profumo diverso nell'aria. S'avanza oggi un nuovo Berlusconi in realtà anche in casa vostra, o no? No. C'è odore di Berlusconi. Di Berluschino, diciamo. C'è un Berluschino in casa vostra. No, sì, c'è, sì, mi dica la verità. C'è un po' un Berluschino. Un adesso, Berluschino. Diciamo, c'è un Berluschino adesso. C'è un no? Berlusconi in nuce, c'è un Berlusconi che sta nascendo. No, adesso. No, no. Lei adesso, ha detto, adesso non è che può tirarsi indietro. No, io non l'ho detto. Io ho detto questo. Ho detto che non abbiamo più bisogno di uomini solo al comando, non abbiamo bisogno di prime donne. Riferendosi a Renzi, però. Come è stato Berlusconi. Dunque, un po' li assomiglia da questo punto di vista. Da questo punto di vista, ma Renzi Renzi sì, perché è un molto protagonista, è uno che sale su questo palco da solo in mezzo a questi fan, in questi teatri, quindi dà un po' l'idea della prima donna, insomma. Ma uno quando deve salire su un palco non è che sale accompagnato dalle maggiorette, cioè sale da solo oppure accompagnato, no, però Moretti sale da solo dice, a parlare no, con tutto questo, con questo cinema che fa intorno a sé, no? Questo format televisivo. Essere, ma guardi che voglio dire, accoppiarlo, comunque dire che c'è una somiglianza con Berlusconi, io non trovo che sia un'offesa. Beh, quando lo dice, se lo dice uno che insomma Berlusconi è stato comunque un grande politico, un grande comunicatore, per cui insomma non trovo che sia così offensivo. Non è offensivo, però è vero, c'è per un Berlusconi che esce ce n'è uno che s'avanza nel Partito Democratico. Beh, questo si può dire o no? Un po' sì. Ma no, è un po' un atteggiamento. Senta, lei, poi sono battute anche ironiche. Ma a lei piacerebbe andare in Parlamento? Ma io veramente, adesso se dobbiamo dirla tutta, io sono molto fiera di fare l'amministratrice locale, soprattutto di questi ultimi tempi. Dice sindaco di Vicenza, no? Quando dove i parlamentari, trova, dove trova il tempo adesso non lo so, eh. Comunque, vabbè, sono una donna. Cioè, che vuol dire? E noi riusciamo a fare tante cose. Sì, rispetto a voi maschi sicuramente lavoro il doppio. Cioè lei sta dicendo che lei lavora il doppio, dunque... Cioè, adesso cioè lei, mi sto tirando le ire di due conduttori contemporaneamente. No, ma è vero che le donne hanno una marcia in più, su questo è soltanto un misogino. No, riusciamo a mettere insieme più cose, sì, no? Molti, lei ormai gira dall'Italia, è presente in televisione. Vuoi sapere cosa ho fatto stamattina? Sì, sentiamo. Ci dica la sua giornata. Ha cucinato. Mi sono svegliato, ovviamente. A che ora? Alle 7:15, 7:20. Ho vestito i miei due bambini che hanno 4-6 anni, poi li ho accompagnati a scuola, sono andata in giunta municipale, dopodiché sono tornata a casa, ho preparato qualcosa da mangiare cosa per questa sera. Degli hamburger e delle verdure. Beh, lei a Roma e loro... No, sono a Vicenza. E poi è tornato. Ho impostato la cena di questa sera. Fantastico. Poi ho preso il treno e sono venuta qui da voi. Poi stasera vado al Circolo Marconi di Roma per il Comitato Bersani e poi vado da Vespa. Cosa pazzesca. Ah, sera vado da Vespa? Siamo Moretti, ormai il protagonista di talk dappertutto. Una cosa incredibile. Senta, ma la corteggiano anche? Le mandano intanto qualche messaggino? Chi? Qualche fan? Deputati. Qualche deputato? No, i deputati sono delle persone serie, del serissime. PD. No. Bah, lei dice. Ti abbiamo visto ieri, bellissima, bravissima. No, bellissima non lo possono dire, devono dire bravissima perché prima. Si offende se qualcuno le dice. Allora, siamo Moretti è considerata la gaffe, una delle principali gaffeuse, una che commette molte gaffe nel Partito Democratico. L'ultima l'ha fatta rispondendo a un tweet di un presunto comitato per Renzi o di Renzi stesso, che gli aveva dato della bella ragazza. No, che... io non mica ho fatto io la gaffe, l'ha fatta questo la gaffe. Ma questo, ma lei a rispondere ha fatto la gaffe. No, io ho detto che si trattava di un maschilista misogino, che non è così raro in Italia tra l'altro trovare. Ce ne sono molti nel Partito Democratico anche, c'è molto maschilismo nel Partito Democratico. Certo, anche nel PD ce n'è. Sì? Sì. Ma il capo dei maschilisti. Ma sì, ma perché voi fate lobby tra di voi? Voi fate lobby, voi uomini, cosa che noi purtroppo donne non riusciamo a fare. Più maschilista nel Partito Democratico, chi è? Più uno po' maschilista. Ma figurati, cioè Renzi per esempio è maschilista? Renzi è un maschilista. Ah, maschilista? E perché? Per esempio? Gliel'ho anche detto. Per esempio? Ma no, è una battuta. No, perché lui ama essere lui, insomma, al centro dell'attenzione. Cioè le donne come le considera? Le tiene. No, le donne ha tre portavoci. E allora, perché è maschilista allora? Ma un po' tende ad essere maschilista. Ah, perché gli piace la corte di donne intorno, sì, però dove emerge sì, lui dove... Quindi diciamo, alle tre amazzoni intorno. Ma no, le amazzoni. No, vabbè, amazzoni. Sono ragazze brave in gamba. Però è un po' la corte, no? Rispetto a... Mi piace, è un egocentrico suo adesso. Ma però è un egocentrico che probabilmente deve essere anche, anche così. Anche in questo assomiglia a Berlusconi. Anche in questo. Cioè, ama circondarsi da una corte, o no? Di donne, in particolare. Voi mi state facendo dire delle cose che non penso. Ma no, ma lei... Lei ha detto è maschilista. Ma come io con Matteo ci parlo, io l'ho detto, ma anche con delle battute molto scherzose, no? E quindi, ma no, figurati tu, dai, fai i complimenti, ma in realtà sei tu sempre davanti, sempre appunto. Il primo della classe, questo maschilismo. Ci credete o no? Ci credete o no che Berlusconi non si candiderà a premier? Annuncia anche le primarie del PDL per il 16 dicembre. Primarie del PDL, primarie di coalizione, chissà. Poi vedremo naturalmente. 800 24 00 24 7. È più bello Renzi o Bersani? Siamo Retti. Noi siamo Bersani, un po' cialtroni. Ogni tanto facciamo questo. Tutta la vita. Bersani più bello di Renzi. Ma, certo. Ma non si può dire una Ma cosa avete del genere. Visto Bersani da giovane? Ha detto giusto, era un possibile attore. A me Renzi non piace per nulla. Possibile attore addirittura. Ma sì, poteva essere, ma questo capello fluente nero. Capello fluente. Ma sì, non l'ha vista? Cary Grant. Chi assomiglia un po'? Un po' Cary Grant. Un po' Cary Grant, sì. Cary sono Grant. D'accordo, sono d'accordo con Cary Grant, sì. Invece Renzi, chi le ricorda? Ma Renzi perché non le piace? Non ho capito. No, questo modo un po' di parlare, un po'... No, ma a livello proprio in questo modo di parlare un po'. Cioè, non si capisce niente, dice quando parla, non ho capito. Insomma, sì. Ognuno c'ha i suoi gusti, ragazzi. Cioè, lei come del... uomo, come uomo le piace più Bersani di Renzi. Vabbè, ma questo è legittimo. No, ma infatti, insomma, per carità, cioè se dovesse scegliere con chi andare a letto. Ma io diciamo non vado a letto con nessuno. No, d'accordo, d'accordo. Però se dovesse scegliere con chi. Ci sono solo due uomini, Bersani o Renzi. Ma non ci vado a letto con nessuno. Tra Renzi e Verdini, ad esempio. No, ma che c'è? Oddio mio. Una gara ma nessuno dei due. Ma ci sei sempre Verdini, non ho capito. Sei fissato con Verdini. Io voglio sapere. Ma è una bravissima persona, Verdini. Comunque con Renzi andrei fuori a mangiare una pizza perché è simpatico. Con Verdini, sì, non credo. No, però tra Bersani, uno lei ha di fronte Bersani e Renzi. Renzi, sì. Con chi sceglie di accoppiarsi? Ma no, ma io non mi accoppio. No, allora però ha detto che le piace più Bersani. Portavoce Moretti. Ma sì, esteticamente. Esteticamente, sì. Chi c'ha di più di bello Bersani rispetto a Renzi? Renzi è più giovane. C'ha le spalle larghe. Invece Renzi è tutto un ed po' è alto. Minuto, no? Renzi è uno sghiscio, uno. Sì, no? No, dica, si esprima su ma questo. Ma ragazzi, ma cosa volete che vi dica? Vi ho già detto tutto, è troppo. Troppo. Cioè, non è solo bravo Bersani, è anche bello. Questo ci vuol far credere. Ma insomma, è un bell'uomo. Cioè, bravo, poi è un bell'uomo. Può piacere, non può piacere. Però fa. Cioè, riscuote successo tra le donne. Tra le donne. Sì. Veramente. Ma sì, nel senso che le donne apprezzano anche di lui questo sorriso, questa simpatia. Avanti, beh, su. Beh, insomma, su questo si può discutere. Ma anche, certo. No, ma avrà dei dati, cioè, sì, evidentemente avrà, saprà degli scontri, che quando certo, degli scontri. Ho delle statistiche. Statistiche alla quando, mano. Quando cioè, vai lei in giro, per esempio, sessualmente, chi è oh, più? Oh, Madonna, ma ragazzi, chi è più bravo? Ma cioè, non chi si è più... può dire cioè, certe Bersani cose. La attrae di più da quel punto di vista. Ma non rispondo a queste domande, su. Beh, avanti. Ma sono cose guardi, domanda, sono cose interessanti, sono cose a chi interessa? Vogliamo ricordare le gaffe che lei ha fatto su Bersani qui alla Zanzara? Le vogliamo ricordare o non le vogliamo ricordare? Due mandati invece di tre. Due mandati e mezzo. Il padre meccanico. Sì, invece, meccanico ma, benzinaio. Ma che meccanico mica uguale. Mica ma meccanico. Vabbè, c'avevano una... No, faceva, c'aveva la pompa ma di benzina. Ma voi siete così puntigliosi sempre con le donne. Sempre sì. Con no, le donne. No, e quando no, un uomo invece no, sbaglia, sì, siete più leggeri. Ma su. Quando mai? Insomma, assolutamente. Ma si deve ricandidare o no? Ma saranno affari suoi se si ma come se saranno affari suoi? Cioè, ma mi dica qualcosa di che di, insomma di, ficca politicamente dia una sberla a qualcuno di questi vecchi basta dinosauri basta questa storia che dice se vince Renzi vediamo cioè, cioè, bella questa cosa che se vince Renzi lui si ricandida è bellissima è un bellissima. Uomo che le piace è un uomo che combatte le piace lei è un uomo che combatte eh? Sì. Le piace questa battaglia contro Renzi ma non fare, è una battaglia contro Renzi eh beh sì quello lei vuole andare in Parlamento però mi dica lei vuole andare in Parlamento no io non ci voglio andare in Parlamento io sto bene qui diciamo qua io voglio lavorare in radio Parlamento. Con voi non andrò in Parlamento lo vogliamo dire? Lavorare in radio con voi no, e questa è mica Radio Bersani cioè, mica radio ma non è una scelta che non è una scelta che faccio io bisogna vedere che tipo di percorso che tipo di legge elettorale ci sarà vabbè, ma lasciamo, lei ci vuole andare o non ci vuole andare in Parlamento ma in questo momento voglio fare questo che sto facendo vabbè ma è solo risposta diplomatica però ma sarebbe sì. Anche normale dopo aver fatto la portavoce di Bersani un ma percorso in amministrazione bisogna vedere se le persone vorranno votare la candideranno la candideranno in Parlamento è inutile stare alle primarie mi candideranno ma anche alle primarie pure lei si vuole candidare alle primarie c'è già una verde già la signora Puppato certo no? Laura lei non la vota la Puppato beh no io voto Bersani però sarebbe divertente se la portavoce di Bersani dicesse io per appartenenza veneta uno voto scoop. La Puppato no, vabbè no. Insomma D'Alema che deve fare ma D'Alema non lo so che farà ce lo vede in Parlamento sì o no ancora per l'altra ma che ce lo vedo beh c'è in Parlamento ma ce lo vede ancora in Parlamento o no oggettivamente non ce lo vede più in Parlamento ma D'Alema si darà da fare comunque per i partiti dunque lo vede paese. Fuori dal lo vede meglio fuori dal Parlamento non diciamo. Lo so lo vedo fuori dal Parlamento non lo so questo lo sta dicendo lei scusa lo vede fuori dal Parlamento su ma la Melandri come ha visto questa nomina della Melandri positiva? Sì. Sì, è d'accordo lei con questa cosa. Insomma, questo è stato scivolo, un ex ministro. Questo ma che scivolo? Un ex ministro scivolo. Dei beni culturali. È una donna preparata, quindi voglio dire. Poi non, mica non si ricandida più in Parlamento. Ha dato ci mancherebbe pure. Appunto. Scusi un attimo, ma un'ultima domanda. Ma lei è mai stata di sinistra? Io sono sempre stata di sinistra. Sempre di sinistra. Chiariamo questa cosa una volta per tutte. Una volta si candidò alle provinciali con una lista che non era proprio di sinistra, addirittura in appoggio a un candidato ex di Forza Italia. Ma allora. Quella lista Under 35, il cui motto era adesso tocca a noi. Vabbè, d'accordo, però era in appoggio a un candidato ex di Forza Italia. No, era una lista trasversale. Ma appoggiava no, su un candidato? No, non era. Era un candidato che di schieramento di centro. Quindi, di centro, appunto. Ma non era un candidato ex di Forza Italia? No, non ho detto di destra. No, era un assolutamente ex... no. Come quindi... no? Era un candidato ex di Forza Italia, questo è vero. Ma lei da ragazza era di sinistra, faceva delle belle... Ma io sono figlia di un comunista. Oh. Sono nipote di un partigiano. Oh. Ho fatto la segretaria di una delle associazioni studentesche più importanti in Veneto, figuriamo, sì. E mi chiamavano la comunista, quindi io non sono mai stata di destra. Benissimo. In vita mia. Senta, smentiamo questa stupidaggine. Ma la Minetti ha detto che va con un uomo al giorno. però, beh, però non però, può stare senza, non può stare fare senza sesso, fare sesso una volta al giorno. Vabbè, ognuno ha i suoi ritmi. Ma figurati se c'ho il tempo io di fare anche sesso. Dai, non c'ha tempo di fare sesso. Ma non tutti i giorni. Non tutti i giorni. Con una donna andrebbe? Ma no. Mai, eh. Grazie, Spinello. Alessandra Moretti. Spinello, conosceremo sempre Spinello, Spinello, se conoscere... l'hai fatta lei uno Spinello? Sì, sì. Ma sì, quando ma ero sì, giovane. Quando ma era pochi giovane. Però, perché non fumo io. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la e si è già candidata alla Santanchè, caro Parenzo, si è già candidata alle primarie del centrodestra, convocata da Berlusconi per il 16 dicembre, capito? Inevitabile. Che significa inevitabile? Inevitabile, era evidente, dopo tutto quello che ha fatto, voleva rottamare mezza classe dirigente, è ovvio che adesso ci deve mettere la faccia, no? Togliti quella cicca dalla bocca innanzitutto, non puoi condurre una trasmissione o essere ospite di una trasmissione con la cicca sulla bocca. Parlo dai. Con... Dai, su, togliti questa roba dalla bocca. Con voce pannelliana. Dai. Ma che voce pannelliana? Voce ridicola, voce non pannelliana. Ma pannelliana. Ma quando mai? La radicale. Grillo, almeno Berlusconi aveva il coraggio di dire che... Sentiamo. Sono finiti, l'ho visto, un vecchio di 74 anni davanti alla Bocassini che diceva io non l'ho toccata, neanche Rubi non l'ho toccata, non l'ho pagata, neanche il coraggio da uomo a dire sì, una bella figlia, abbiate pazienza, ci sono caduto, no, devono negare anche tutta la loro vita. Beh, non è male questa, questo, da grande comico devo dire, da grande comico, al di là delle strategie processuali di... e di quello che tutti noi pensiamo dei rapporti tra Berlusconi, anche per quello che ci dicono in privato persone che conoscono, certo, Berlusconi di questa vicenda, ma insomma nessuno di noi ha visto, però è una bella battuta, cioè, devono negare tutto, ma invece abbia il coraggio di dire sì, è una bella figa, ci sono caduto, mi piaceva moltissimo, era molto bella. E risentiamo Crozza allora, su questo, su questa cosa qui, dopo Berlusconi, dopo quello che ha detto Berlusconi su Rubi, il Viagra farà una causa per danni alla memoria, anzi ancora faranno causa Viagra per danni alla memoria. Dunque, dopo le dichiarazioni di Berlusconi che con le ragazze ad Arcore non è successo niente, i produttori del Viagra hanno subito aggiornato le avvertenze: può provocare danni alla memoria. Questo no, voglio riprendere ancora Grillo prima del TG3, perché dice in Sicilia, in questo suo tour siciliano, non è uno spreco il numero di forestali. Adesso bisogna sempre capire se è una cosa comica oppure no, eh. Ve lo ricordate, cari ascoltatori della Zanzara, il numero di forestali che ha il signor Lombardo, ma in realtà la regione Sicilia? Sì, rispetto al numero agli ettari, ai chilometri quadrati, chiamateli come volete, delle foreste in Sicilia e il numero di... Notte foreste siciliane. Le foreste siciliane, le famose... rispetto alle foreste di altre regioni, no? La sproporzione nei numeri, ve la ricordate? Se no ve la ricordo io fra poco. Intanto sentiamo Grillo. Abbiamo 27.000 guardie forestali. Io credevo che fosse uno spreco di energie. Invece non è uno spreco avere 27.000 persone nei boschi che possono controllare il territorio. Oggi il primo problema è il disastro idrogeologico. Piove in mezz'ora quello che pioveva in sei mesi. Ma no, invece ma serio, qui sembra serio. Qui sembra drammaticamente serio. Drammaticamente, 27.000 forestali servono perché ci sono i danni idrogeologici. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi non mi candido a premier, preferisco fare un passo indietro. Annuncia che il 16 dicembre si terranno le primarie per la scelta del suo successore. Bersani, dopo l'incontro con Monti, governo disponibile a correzioni, c'è spazio per soluzioni a saldo invariato, Alfano stop all'aumento delle tasse, i vescovi basta sacrifici. Esodati, il governo battuto in commissione sui numeri, si allarga la platea degli interessati, ne arriva un contributo, una tantum, dai redditi oltre i 150.000 euro. Napolitano, non chiederemo aiuti all'Europa, la stabilità dipende dalle scelte politiche, Monti, qualsiasi governo dovrà rispettare gli impegni. Finmeccanica, dopo il ciclone giudiziario, cautele sulle decisioni da prendere, non parliamo finché non abbiamo deciso, dice il governo aspettando il consiglio di amministrazione. Il ministro dell'ambiente Clini contro la sentenza dell'Aquila che condanna la commissione grandi rischi, hanno ragione quelli che dicono che l'unico precedente è quello di Galileo. Il ministero vieta la distribuzione di vaccini anti-influenzali della Novartis, pericolo di effetti collaterali, a rischio 6 milioni di dosi, pochi giorni fa un caso simile. zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ora Santanchè 2 settimane fa diceva: mi candido alla primaria del centrodestra, ma si figuri se Berlusconi esce di scena. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Francesco da Pistoia, siamo qui, combattiamo, siamo vivi e lottiamo insieme a voi. Francesco. D'accordo, d'accordo, combattiamo. Vada, pure. Vada, vada. Vado. Dunque, io le volevo dire che pur non condividendo niente su quello che dice Vauro, stasera mi trova d'accordo. Cioè? E mi trovo in disaccordo con lei quando elogia la Fornero. Anzi, io sulla Fornero avrei una definizione proprio appropriata. È una megera, nel senso, è una donna molto brutta, vecchia, cattiva, acida e di carattere astioso. E poi quale, ancora qualcosa? Sì, la quale fra l'altro disprezza i giovani. Ma perché quando mai? Dice che se i giovani aspirano a un posto fisso è un'umiliazione, per loro è umiliante, non si rende conto che i giovani per crearsi una famiglia hanno bisogno dei prestiti delle banche, Francesco, hanno bisogno dei mutui. Guardi, e se non hanno il posto fisso dalle banche non beccano, non prendono un quattrino. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, perché purtroppo la nostra società è organizzata intorno al posto fisso. Io approvo quasi sempre al 90% quello che dice la Fornero, perché mi sembra un personaggio, rispetto ad altri ministri, rispetto ad altre esperienze, innovativo, un personaggio rivoluzionario, a parte gli errori che ci sono stati di comunicazione, la vicenda degli esodati, però insomma ha fatto una grande riforma delle pensioni, ha delle idee innovative sul mondo del lavoro, anche troppo timide secondo me in alcuni momenti, proprio per non voler andare fino in fondo, per timore delle reazioni. Anzi, se io gli imputo qualcosa, se le imputo qualcosa, è proprio su questo piano qua, di essere poco, in realtà poco coraggiosa, di non andare fino in fondo. È successo sull'articolo 18, ma succede anche su altre cose. Francesco, grazie. Anzi, Marco, parla troppo e invece fa meno di quello che dice, perché se davvero crede quello che ha detto sui giovani, ad esempio, dovrebbe metterlo in pratica subito, e invece non lo fa. Marco da Bologna. E buonasera Parenzo, buonasera Truciani, approfitto dell'opportunità. Dica. Di parlare a questa bella platea per annunciare che scendo in campo. Sì, scendo in campo per le primarie del PDL. Sì, perché c'è bisogno, non voglio usare il termine rottamare, preferisco usare il termine termovalorizzare, gente come Verdini, Scaiola, Giovanardi e tanti altri. Sì. Le persone saranno sicuramente con me. Punto ai voti dei delusi del PDL. Scusi, lei si presenta in quanto Marco da Bologna oppure si presenta come un semplice elettore che vuole dire la sua? No, in quanto Marco da Bologna che si presenta come candidato. Ma chi è? Ma lei è iscritto al PDL? Come? Un attimo solo. Chi è questa? Aspetta, non si può dire. Quando squilla un telefono però... Squilla un telefono della Zanzara. In genere dicono una telefonata allunga la vita. In questo caso, sai. Potrebbe anche accorciarla. In genere, sai com'è? Sai com'è? Mi stai chiamando il signor Clini? No, no, non si può dire. Non voglio più dire chi chiamiamo. Però una persona che è nel come dire, al centro dell'attualità. Insomma, ecco. Sì, sì. Squilla il telefono della Zanzara. Il mondo trema. Il mondo, sì, sì. Tutti. Fermi. Tutti. Mondo, adesso non esageriamo. Mi piace proprio questo telefono. Ma Montezemolo stai chiamando? No, ma che Montezemolo? Sì, Montezemolo. Vabbè, Marco, allora vuole concludere, abbassiamo sto telefono, su, tanto ci proveremo, abbiamo tempo. Marco. Sì, dunque, appunto mi candiderò. Il fatto che sia iscritto al PDL più o meno non fa molto testo, insomma, non è importante. Ma è almeno un elettore del PDL, punto, lei? Punto ai voti dei delusi del PDL. Ma cosa punta? Quali voti di chi? Non è che uno chiama, adesso mi incazzo, non è che uno telefona e dice io mi uso questa platea e dico mi candido. Certo, ma lei, certo. Ma certo cosa? Certo. Ma lei ha mai votato PDL prima? Ma lei ha mai votato? Ma noi rivoluzionari. Ma noi chi? Noi chi? È Marco da Bologna, che è Marco si chiama? E i contenti del PD faremo insieme questa coalizione e rivoluzioneremo la destra italiana. Ma lei si vuole candidare, vediamo se si candiderà. Abbiamo già anche scelto il mezzo perché... Come si chiama di cognome lei, scusi? Montezemolo molto carinamente è sceso dal treno per prestarcelo, per cui partiamo molto presto. E io mi chiamo Pallini, guardi, mi chiamo Marco Pallini. Marco Pallini, vediamo se si candiderà. Il sarà Pallini subito. Pallini subito. Pallini, dopo bello, la Santanchè si candida anche Marco Pallini. Pallini. Grazie, Lucio da Bologna. Potremmo buonasera. Anche pensare di sostenere la candidatura sempre da Bologna, di Lucio Pallini. Vada. nulla, no, io volevo fare una considerazione su quello che ha detto la Fornero, però non prendendola mea con lei, ma farne un discorso generazionale come lei ha fatto. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Beh, nel giorno in cui Berlusconi annuncia che non si candiderà a premier e anche le primarie per il PDL il 16 dicembre, la figlia Barbara, ormai ci sono delle lodi sperticate dappertutto nel mondo politico per questa decisione. La figlia Barbara dice: alla prova chi ha dato lezioni, la Santanchè, io in campo. Altri dicono: beh, una cosa che cambierà la storia del centrodestra. In realtà non c'era nulla di più scontato di questo annuncio di Berlusconi. Sentiamo però Di Pietro, il quale parla dei guai dell'Italia dei Valori. Ho ripassato il Padre Nostro. Siccome abbiamo visto obiettivamente che il finanziamento pubblico ai partiti, con tutti gli scandali che stanno succedendo, è una tentazione, ho ripassato mentalmente e operativamente il Padre Nostro. Padre Nostro, se lo ricordo, siamo andati a fare il chirichetto un anno fa. Cosa diceva la fine? Che il Padre Nostro che sei nei cieli, Signore, ma liberaci dal male, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia. Così abbiamo fatto noi. Prima abbiamo preso la nostra quota e l'abbiamo consegnato ai terremotati. I giovani dell'Italia dei Valori hanno imparato a rubare. Una volta erano quelli della Prima Repubblica che si macchiavano di reato. Abbiamo provato a mandare nelle istituzioni locali giovani, mai fatto politica. La prima cosa che hanno capito è come si ruba. È successo pure a me, al mio partito, quindi pensa un po'. Eccoci, andiamo a Pisa. Federico, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguarda la Fornero. Io ho 29 anni, quindi sono, diciamo, uno dei giovani che è in cerca appunto di lavoro. Allora? Sono schizzignoso. Il problema è che io è 9 mesi che mando curriculum e il lavoro non è che non è essere schizzignoso, è che proprio il lavoro in questo momento manca. Accetto tutto, accetto il barista. No, siccome lei ieri diceva che i giovani... Se lei vuole fare il barista, Federico, se lei vuole fare il barista lo fa. No, il no, no, a me basta che sia un lavoro, però in questo momento qui io accetto tutto. Però ma no, ma non è così, ma lei giustamente cerca un lavoro che è adatto alle sue competenze e che sia anche e che giustifichi quello che ha fatto nella vita fino adesso, come è normale che sia. Dopodiché è vero che ci sono moltissimi lavori che gli italiani non vogliono fare, non sarà il suo caso. In questo momento qui io cerco un lavoro, nel senso, quale che sia. Il problema appunto non è essere schizzignosi, è la mancanza di lavoro per i giovani. È l'economia bellezza, cioè è il mondo capitalistico in cui è complicato trovare lavoro, e soprattutto se è una società chiusa come quella italiana, in cui ci sono corporazioni, burocrazie, un sacco di Stato. Il discorso sarebbe lunghissimo. Gino dalla provincia di Macerata, rifacciamo quel numero. Gino, dica, non c'è più. Pietro da Napoli, pronto? Vada. Salve, buonasera a tutti. Vada. No, volevo dire che sono d'accordo con lei che Berlusconi è dietro l'angolo la balla come sempre, per cui stavolta mi sembra difficile, ma un attimo solo, un attimo. Secondo squillo, terzo squillo, quarto butta male, squillo, butta molto male. La tensione quinto, sale. Brutta male, brutta male. Vedo già la gente in colonna che ha accostato per capire come va a finire. Vedo. Attaccato. Dunque c'è, esiste una persona. Lo sveleremo entro le 21. Chi non risponde agli squilli della Zanzara, commettendo un reato ancora non previsto dal codice, ma presto sanzionabile. Pietro, allora? Dicevo, la balla più colossale è che lui lavora per l'amore dell'Italia. Insomma, sono 20 anni che che lavora per l'amore dell'Italia. E vabbè, amico mio, uno che deve dire in politica, che deve dire quando si candida, che lavora per il male dell'Italia, o quando annuncia di non candidarsi, uno quando annuncia di candidarsi dice che si annuncia per il, si candida per il bene dell'Italia, questo francamente mi sembra scontato. Però c'è una cosa, pochi giorni fa da voi c'è stato un ascoltatore che diceva, parlava, forse chiaramente un po' utopica come cosa, un po' strana come cosa, però quando si dice... dunque, quella persona diceva che bisognerebbe mettere delle domande a chi va a votare, se lo ricorda? Sì, allora, questa è una follia, però votare Berlusconi perché sei tifoso del Milan. Ma chi l'ha mai sostenuto? Ma la maggior parte degli ma non è vero, no. Non sapevano assolutamente di ma lei ma non è vero, lei pensa ma che la certo, gente sia imbecille, lei ha un'idea sbagliata di quello no, che lei ha un'idea sbagliata, stia calmo. Perché ragionare. Ma lei pensa di essere più intelligente di altri elettori? Pensa no, di essere lei più. Ha detto che sono poco intelligente. Lei pensa di essere più niente. Formato? Lei pensa di essere più figo di altri elettori? Io mi informo. Questa allora quelli che non si informano non dovrebbero votare, c'è anche il diritto a non informarsi, Pietro. Sarebbe il caso che si informassero. E se uno non si vuole informare, non deve votare? Perché questo atteggiamento democratico di cui si parla. Ah, invece sempre, che cosa bisogna. Questa democrazia che poi viene usata da queste persone per fare quello che hanno fatto, no? Perché noi paghiamo. Ma lei sta sproloquiando, sta sproloquiando. No, io sto sproloquiando. Noi paghiamo anche tre avvocati che stanno lì. E li ma quello è un altro discorso. Questo è un'altra questione. È un altro discorso. Senta che cosa le metto. Liberi. Forza Italia, questo è bello, che siamo tantissimi. Crescere. Forza Italia. Beh, proprio nei giorni in cui torna Forza Italia, sembra che torni Forza Italia, perché non è detto, proprio in questi giorni Berlusconi decide per il passo d'addio alla premiership. Hashtag tanta roba. E abbiamo con noi uno dei primi, uno tra i fondatori di Forza Italia. Un ultras, vuoi dire quasi? Ma no, ultras no, non è un fedelissimo di Berlusconi, bisogna dire. E noi proprio lo becchiamo sempre nei giorni adatti. Nei giorni clou, è veramente chiave. Una cosa casuale, perché non l'abbiamo invitato stasera dopo l'annuncio di Berlusconi. Posso testimoniarlo, questo è vero. Era stato invitato ieri, l'altra volta è quando fu annunciato, quando si pensava al ritorno di Forza Italia, eccetera. Questa volta nel giorno dell'addio, chiamiamolo così. Tecnicamente si chiama culo, no? Questo, quando giornalisticamente non so se per lui è così. Accadono queste cose. Giancarlo Galan, buonasera. Sì, si chiama proprio così. Dove si trova Galan? A casa mia in questo momento. Ah, nella villa, ottimo. Nella famosa villa. Nella famosa villa. La famosa villa del mutuo, il mutuo, un mutuo pazzesco, una cosa incredibile. Quante stanze ha a casa sua, signor Galan? Non lo so, non le ho mai contate. Perché sono tante. Perché sono tante. Allora, almeno quanti bagni? Quello è importante. Il numero dei bagni è importante nelle case eleganti. 5 bagni. Beh, per forza, nelle case signorili ci hanno sempre più. Alle ville venete ci sono 5 bagni. Storicamente nelle case importanti c'è sempre almeno più di un bagno. Dici questo è fondamentale, che a casa mia c'erano 3 bagni. No, veramente a casa mia, questo è importante. In una casa mia. Ma questo è vero, importante. In una casa mia al centro di Roma. Sì. Casa mia, in realtà, della di mia madre. La famiglia, sì. La mia famiglia. Ma poco male, diciamolo. C'era un solo bagno. Ecco, vabbè, questo un solo bagno è un piccolo bagno per la cosiddetta servitù. Per la servitù. Segno di decadenza. Perché erano dei rizzozzoni prima, nelle grandi I città. Ma no, erano. No, chiedo. No. Erano quelli, erano discendenti. No, non nelle grandi città. No, è mia madre, non c'entra niente. Non no, erano dei rizzozzoni. Io non voglio entrare. È che nelle famiglie, come dire, patrizie, chiamiamole così, romane, nei palazzi romani, in realtà antichi, del 1500, eccetera, eccetera, c'era un solo bagno. Beh, potevate nel corso degli anni. Per 12 persone. Patrizi ai cruciani potevate fare qualche bagnetto in più. È rimasto un solo bagno, una zozzeria incredibile. Beh, l'hai detto tu. Certi topi grossi così. Ecco, noi Giancarlo Galan, allora Galan, è una buona notizia questa qua o no, quella dell'addio di Berlusconi? No, per me no. Se io sono sincero sempre. È in lutto? È un po' in lutto? No, non sono in lutto perché c'è qualcosa che mi lascia ben sperare, ma non sono contento. Insomma, io ho cominciato la mia vita politica 18-19 anni fa con Berlusconi e oggi... Una lacrima è scappata oggi, no? Una lacrimuccia è scappata, su. Le lacrime si fanno quando si è giovani o quando si è innamorati, ma un dispiacere sì ce l'ho. Anche se ho una speranza, però altrettanto forte, che torni indietro. Intanto ho una gioia che non si è mai visto un uomo politico che abbia inciso così tanto nella storia del suo paese, che abbia fatto così tante novità. Ditemi un altro che ha avuto il coraggio adesso con di tirarsi sottofondo musicale. Quindi, giusto, dovrebbe un po' dispiacere anche a quelli che hanno alimentato le campagne. Parli, parli, lei parli pure, intanto ci mettiamo i violini sotto. Quindi un uomo geniale, secondo, diceva, sì? Assolutamente, ecco, geniale, innovatore, che mancherà. Devo dire che la speranza mia è quella che lui ha detto farò il padre, favorirò dei giovani che amino rischiare la loro faccia, la loro credibilità e la loro storia in politica, e io ho qualche buona idea ce l'ho da dare a loro. Chi? Ecco, cioè, quale idea? Un motivo di soddisfazione, ti dico l'ultimo. L'ultimo? Così adesso tutti quelli che hanno per davvero rotto con la storia, ma quelli no, finché c'è Berlusconi, no, niente centro, niente unione dei moderati finché c'è Berlusconi, beh, adesso sono serviti e adesso voglio vedere come... Beh, diranno che Berlusconi rimane sempre lì a controllare la situazione, il guardiano del faro. Magari si vuole ricandidare. Ecco, lei, a proposito, il posto giusto adesso dove potrebbe finire, tra virgolette, naturalmente Berlusconi, che non ha bisogno di finire da nessuna parte, senatore, però a vita, politicamente, lei come lo vede, senatore a vita al Senato? Non credo che abbia di queste preoccupazioni, credo che adesso abbia un altro desiderio, quello di fare lo scopritore, il talent scout. Ah, il talent scout. Il briatore della politica, come nei reality. Io spero qualcuno più giovane. No, ma voglio come dire... Come ha fatto nel 94, il talent scout. Ne ha trovati di buoni, di cattivi, ma quelli iniziali... Almeno quelli che gli ho trovato io non ce n'era neanche uno di malvagio. Il talent scout. Cioè, adesso, lei dice però scusi, al di là del talent scout, quello ci sarà sicuramente, poi ci sono le primarie, non è che decide lui, decide il popolo, secondo questa... Sant'Anchè già candidata, Galan. Sant'Anchè candidata, come la vede la Sant'Anchè candidata, Galan? Penso che lo sarò anch'io, Adesso. Si candida alle primarie, Certo. Io mica potevo candidarmi contro il mio padre politico. No, però, quello certo. Se non c'è più, se si apre un dibattito interno, io rappresento intanto una buona storia di amministrazione di una regione importante come il Veneto. Non c'è secondo dubbio. Cerco di rappresentare l'area liberale, dopo gli amici, con gli amici sceglieremo che cosa sarà più scusi, ma fare, si candida. C'è, certo. Scusi, però lo sa, Galan, lei lo sa che candidarsi costa un po' di soldi, ce l'hai i soldi per candidarsi? Defenderà la barca, neanche no? Uno, spero che qualcuno me li dia, ma credo che qualcuno lo faccia, costerà anche per gli altri, no? Sì, non c'è dubbio. Cioè, la Sant'Anchè un po' di soldi ce l'ha. Io cercherò di trovare di cioè, lei parte già in svantaggio. Abbiamo già due candidati stasera. Ma non fare l'uccello del malaugurio. Ma no, ma io faccio tipo per lei. Io faccio tipo per lei. Questa da oggi, questa è Radio Galan. Servono anche le idee in politica e mica solo i soldi. E lei ha più servono idee. Le idee servono, serve rappresentare un'area. Io dico che quando presentavamo programmi liberali ispirati a quel principio abbiamo vinto le elezioni. Scusi, Galan, oggi lei... ho visto il manifesto della mia campagna, è stato un caso, ma ho visto il manifesto della mia campagna elettorale del 95 e recitava, come recitava? Il polo, il headline, come si dice, era il polo dei liberali, dei cattolici e dei riformatori. Ecco. Un po' complicato, c'è un po' tutto dentro. Un po' complicato, un po' lungo per i nostri tempi. Sta in un grande partito di democrazia occidentale. Senta, com'è? Scusi, però lei ha detto io di idee ne ho, perché la Sant'Anchè c'era un po' di meno di lei, no? Di idee, o no? Ma no, non lo so, lei ci avrà le sue. Io dalla Sant'Anchè, a cui ci sono certi tratti che mi uniscono, questa capacità tipica delle donne di essere aggressive, dirompenti e sincere fino in fondo, c'è un giudizio politico che mi divide, che è quello sul governo Monti. Sì, perché lei lo vorrebbe buttare nel cestino, invece lei per alcuni aspetti... No, lei dico la Sant'Anchè, Sant'Anchè. No, io dico che ha fatto che gli do la sufficienza, che ha fatto cose sbagliate, che poteva far bene, ma che di fondo il disegno mi va bene. Scusi, però Galan, al di là di questo, lei dice Berlusconi il talent scout, no? Troverà nuovi talenti nella politica, uno scopritore, come succede spesso. Una specie di X Factor, ecco. Esatto, come una specie di X Factor, lì nel capo della giuria di X Factor, giusto? Sì. Si può dire una cosa di... non è male. Una specie di Maionchi con più capelli, ecco. Con meno capelli, pardon. Una specie di Maionchi con meno capelli. Anche con qualche... Anche, insomma, Berlusconi è stato il più importante politico degli ultimi vent'anni, ma forse anche 50 anni forse. Ma probabilmente anche degli ultimi 50 del dopoguerra, sì. Il più grande politico del dopoguerra. Violini. Quello che ha modificato il corso del destino. Sì, ha cambiato anche il corso dei fiumi, ha costruito il Colosseo. Però qualche buona cosa è stata fatta, dai. Sì, non c'è dubbio. Comunque non c'è nessuno che possa dire di aver fatto di più. Ecco, ma rivedremo ancora ad esempio Ghedini in Parlamento? Ecco, rivedremo gli avvocati di Berlusconi in Parlamento. Li rivedremo, è giusto rivederli? Ma se vogliono candidarsi sono liberissimi di però farlo. Dopo è finita anche un'epoca gente, o no? Io spero che si cambi questa legge elettorale e che lo scelga la gente. Ma ha senso oggi, non più. Ma avrebbe senso, no? Avrebbe senso di nuovo candidare gli avvocati in Parlamento? Cioè Longo Ghedini, Longo... Ma no, questo lo decideremo insieme. Io non sono quello questa volta, l'ho fatto nel 90. Entrambi veneti, peraltro. Ma non lo faccio e non lo farò più quello di scegliere io. Com'è che si è scelto avvocati entrambi veneti? Questa è curiosa come cosa. Perché noi veneti qualcosa di buono lo facciamo. 30 no? secondi, torniamo subito. 800 24 00 24. Galan annuncia: mi candido anch'io per l'area liberale alle primarie del PDL. Non mi candiderò a premier. Qui alla Zanzara con noi Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, esponente del PDL. Chissà se esisterà ancora il PDL nel momento in cui ci saranno le primarie, perché mi sembra che la divisione Galan sia molto vicina, diciamola tutta. È molto vicina alla divisione. Non lo so. Lei se lo augura anche comunque. Essere, ma questo lo decideremo proprio nel corso del dibattito. Certo, senza Berlusconi è più facile che le idee di divisione prevalgano. È difficile trovare un'altra persona con una capacità di unire così tanto le persone come lui. Cioè, insomma, lei si augura che cosa? Che ci sia Forza Italia da una parte con tutti quelli che avete fatto Forza Italia all'inizio, altre persone ancora, e dall'altra gli ex AN. Insomma, che si ritorni un po' a uno schema che è quello del 94, no? No, una cosa un po' diversa mi auguro. Mi auguro che si rifaccia un grande partito in uno schema bipolare come è in tutte le grandi democrazie dell'Occidente, in cui stiano assieme tutti quelli che hanno una visione non statalista delle cose, e che in questo partito ci siano diverse componenti, nessuna in grado di prevalere sull'altra. Vabbè, ma lei Forza Italia si augura che ci sia Forza Italia, un ritorno di Forza Italia? Io mi auguro che ci sia un grande partito ispirato ai valori liberali e con un programma. E se si chiama Forza Italia va bene. Meglio ancora. Ma no, non si chiamerà Forza Italia, perché Forza Ma Berlusconi ha detto che è il migliore brand possibile, quello che tira di più. Non lo so, io credo che al tempo del 94 molti di quelli che voteranno per la prima volta, tutti quelli che voteranno per la prima volta quest'anno, non erano neppure nati. Quindi insomma senta, una cosa, ma lei uno come Scajola per esempio, che ha diverse cose in ballo, la questione della casa, adesso ultima la questione di Finmeccanica, naturalmente tutti da verificare, no? Ecco, ma lei lo ricandiderebbe uno come Scajola? No. Perché no? Come mai? Ma perché non corrisponde all'immagine che io vorrei che fosse data al mio partito. Dell'Utri? No, dell'Utri. E poi ma chi non altro credo ancora? Che si ponga neppure il... Beh, lui dice che per difendersi dai magistrati, se è il caso, si ricandiderebbe. Io non credo che... E qui anche Berlusconi, in teoria, allora, da questo punto di vista. Ma non credo che sia una buona tecnica. Scusi, se Berlusconi viene condannato, per esempio, nella vicenda Ruby in primo grado, secondo lei si deve ricandidare in Parlamento? No, deve scegliere. Io premetto, Berlusconi io lo vorrei ricandidato in Parlamento. Però se viene condannato in primo grado nella vicenda Ruby, non si deve ricandidare, secondo lei? No, si deve ricandidare. No, si deve ricandidare. Sono favorevole alla ricandidatura, ha molto da insegnare, poi insomma un po' di garantismo a questo mondo ci deve pure essere. Cioè Berlusconi è un'eccezione rispetto agli altri, dice lei. Passata in giudicato e dopo vediamo. Ma anche Scajola non è condannato. Però ormai la sua maniera, poi è stato deputato per tantissimi anni, legislature, io credo per davvero che dopo un certo numero di anni... E poi deve spiegare ancora la cosa della casa, o sbaglio? Deve spiegare... Berlusconi è un caso eccezionale, perché sì, ha molto da insegnare sì, ancora, ecco, ma tranne casi eccezionali un po' di ricambio. Ma lei si vede nello stesso partito con la Russa e Gasparri alle prossime elezioni? No, faccio molta fatica. Forse anche loro fanno forse fatica. Anche loro forse ne fanno ancora di più di me, ma non sarà perché... nello stesso partito, su, diciamo la verità, non sarà nello stesso partito. No, non è mica detto, dipende da come si mettono la legge elettorale dipende da mille cose, ma d'altra parte nel Labour Party stavano insieme Kinnock, Trotskista con Blair, che è un liberale. Quindi si può anche fare, dipende da come si strutturano le cose. Ma Scajola, per esempio, prima risolva la questione della casa e poi eventualmente si candidi? Oppure basta definitivamente? Io direi che si può anche fare altro nella vita. Sì, eh. Sì. Senta una cosa, ma non è mica obbligatorio fare i deputati. Guardi che quello ha un caratterino, signor Scajola, lo chiamavano Sciaboletta. Sciaboletta. Guardi che si incazza, io glielo dico, Galan, attento. Noi siamo suoi amici, noi, suoi tifosi, le vogliamo radio, bene. Faremo Radio Galan. Saremo per la sua panoplia, la sua panoplia saremo. Tanti incazzati con me, non, Lei non ha i soldi, ma saremo noi il suo portavoce saremo poi. Poi magari ci cacciano a noi. Lo dichiariamo apertamente. Noi appoggiamo Galan. Scusi un attimo, Galan, però no, ma io non scherzo per niente. Scusi Galan, ma Berlusconi, per esempio, pensa di dare, sembrerebbe ci sia un accordo per dare la Lombardia, la candidatura della Lombardia a Maroni. Ma scusi, non è una follia? Piemonte, Lombardia, Veneto, sarebbe una follia? Dica qualcosa a Berlusconi o no? Io la considero, peggio di una follia, la considero un errore enorme. Una iattura, un disastro. Per questo ho sempre detto, fin dal primo momento, che io sono, senza nessuna ostilità, e Maroni è stato un ottimo ministro, ho anche un rapporto con lui assolutamente gradevole e corretto, ma sarebbe una follia dal punto di vista politico. Il candidato col quale io mi sono sempre schierato è Albertini, per una logica politica. E non per Silvio, non dare la Lombardia alla Lega. Ma insomma vorrebbe dire guardate che noi al nord non ci siamo. Non contiamo più, non contiamo nulla. Noi, ma insomma sarebbe una follia. Scusi, un attimo, io la considero tale, dopo chi lo sa. No, certo. Sbaglio, e ho visto che già i tatticismi indicano altre soluzioni, però io sono di questa idea. Certo, un'ultima cosa, lei avrebbe mai nominato la nomina, naturalmente non era il momento di fare una nomina quando lei era ministro, però Giovanna Melandri come presidente, direttore, non so della esattamente fondazione. Del Maxi, da ministro, no, del non l'avrei mai nominata, con tutta anche la simpatia personale che io ho per Giovanna Melandri. Trovo francamente inopportuno che uno smetta di fare politica e il giorno dopo subito lo si colloca in un posto così delicato. Ma anche lei qualche nomina l'avrà fatta prima di abbandonare il Ministero della Cultura. Torniamo no? subito dopo la pubblicità. Sì, Galan, ma non di politici che stavano abbandonando la carriera. Lei ha nominato, come si chiama, quello della RAI, eccetera. Non era un politico, però. Ma tagliela! Come una muchachita. Oh, eccoci qui di nuovo in onda con Giancarlo Galan, ex ministro del governo Berlusconi, PDL, chissà cosa sarà fra qualche mese, e che ha annunciato che si candiderà alle primarie del centrodestra, del PDL in realtà, e che la regione Lombardia mai dovrà essere consegnata alla Lega, almeno come candidatura, perché poi i voti bisogna vedere, Galan, perché una volta era scontato che la Lombardia, no, andasse al centrodestra. Oggi oggi è un po' più complicata. Ma non c'è mai niente di scontato, non per carità. Però anche in Veneto mica avrei fatto le campagne elettorali. No, bisogna sempre guardare qualsiasi campagna elettorale come non scontata. Certo, ma lei diceva della Melandri. Dunque, per concludere il discorso sulla Melandri, insomma, a me pare assurdo, che anch'io sono contrario a questa nomina perché è stata nei tempi sbagliata. Però Galan, mi sembra assurdo che siano esponenti del PDL a protestare, o esponenti dell'ex maggioranza a protestare, perché di nomine politiche tutti le hanno fatte, ma anche ne hanno fatte a Bizzeff ovunque. Marzullo in realtà è... Ti posso dire, questa non è questo è un governo tecnico, questo è un governo che non ha preso nessun voto dagli italiani, almeno per ora, e per questo non dovrebbe fare nomine politiche, ma eventualmente, se proprio c'è il bisogno, una nomina tecnica. Tecnica, questo, ma sei competente. Nulla in contrario contro contro la Melandri di persona, però, non per nulla, ma un governo tecnico. Ma secondo lei è in grado di guidare, di governare il maxi? Secondo lei o no? Ma secondo me lo può essere, perché no? Perché no? Però il metodo è sbagliato, dice lei. Però è sbagliato. Io mi sono trovato molto d'accordo in genere col mio successore Ornaghi, ma questa volta no. Proprio no. Comunque bisogna dire una cosa, io trovo anche assurda questa ipocrisia sui soldi, no? Sullo stipendio, eccetera. Perché se uno va a fare un lavoro in un museo importante non deve essere pagato, non deve essere retribuito. Questa storia assurda dei 90 euro all'anno, ma di che parliamo? Uno va a fare un lavoro al Maxi. Ma qui perfettamente ragione. Cioè, ma uno prende uno stipendio normale come direttore o presidente del Maxi, perché questa cosa ipocrita di dire esco dalla Camera, non prenderò un euro? Certo. Perché uno deve prendere uno stipendio come presidente adeguato, direttore del Maxi, per governare un grande museo e farne, come lei dice, la Tate Gallery italiana. Lo trovo veramente una cosa assurda. Difatti è solo ipocrisia. Io, senta, mi dia una definizione. Faccio il presidente della Fondazione Canova adesso. Sì. A Bassagno. Da quando, scusi? Dove è nato Canova? Da poche settimane. Finalmente, quant'è il gettone lì? Quant'è il gettone? Non lo so, al giorno della nomina, ma meno di un mese fa. Ma quant'è il gettone? Io lì rinuncio sia allo stipendio, che non c'è, per e perché? E perché? Ma perfino ai rimborsi spese, perché si fa fatica il museo. Ah, vabbè, un altro come discorso. Mio contributo, certo. Fare questa cosa. Allora, fatemi scattare i violini un attimo, su una frase che ha detto Maurizio Lupi, perché oggi è il giorno dell'esaltazione del di Berlusconi, miele, del miele. Il giorno del miele nei confronti di Berlusconi per questa scelta che ha fatto. Magari è giustificato questo miele, non lo so, però noi ci divertiamo così. Maurizio Lupi: Berlusconi ama davvero l'Italia, ecco. Non è attaccato alla poltrona, ma pensa alle future generazioni. Ah, che ha quanto amore. Grande, mi faccia anche lei un elogio oggi di Berlusconi, ne sentiamo il bisogno. No, che elogio, quello che ha fatto in questi 18 anni. Grande statista, mica la vede, più grande statista. Ha ragione lei. Non c'è mica bisogno di fargli un complimento. È irraccontabile, ha ragione lei, è vero. Ma quello che ha fatto in questi anni è irraccontabile, perché... è vero. Bravo, bravo, è irraccontabile, irraccontabile, ha ragione. Scusi, ma lo sai che cosa è uscito oggi? Un racconto, qui ne escono di tutti i colori adesso, sì, per fare, perché le cose non sono casuali, no? Un racconto fatto da oggi di una signora bulgara che si chiama, non mi ricordo come, intanto è tornata una persona senza il nostro... Che non è bulgara però? Una senza, signora che non è bulgara senza il nostro permesso. Lei conosce la signora Parietti? Mi scusi, l'ho vista in televisione. L'ha vista detta in televisione. Anche la nostra Alba, non Dorata, ovviamente. Sì, Alba Dorata è una nostra Alba, lei l'Alba Dorata. Il signor ex ministro dei beni culturali, signor Galan. Sì, cioè, le piace? Conosco, mi sembrano domande un po' troppo. No, ma anche fisicamente, noi diciamo proprio. Beh, è un signore che ha il physique du rôle. Cioè, nel senso che le piace il fisico del ruolo, cioè va bene per il ruolo che ricopre, va bene così, ministro, scusi. Ex ministro. Vabbè, insomma, sono titoli. Comunque, ho conosciuto Silvio nel 2004 a Washington. Dopo alcune serate indimenticabili, ho capito che era vero amore. Ho cominciato a studiare la vostra lingua. Mi sono trasferita a Roma. Non potrò mai scordare la nostra prima notte insieme. Continuavo a ripetere amazing, amazing, strabiliante, strabiliante. Ancora oggi mi prende in giro quando ripensiamo a quella notte. Questa era bulgara. Il problema, bulgara, il problema è una signora bulgara che si chiama Darina Pavlova. Lo ha detto lei, magari sarà falso, però insomma. Io sono capitata in un brutto momento. Ne escono tante di queste cose, signor Galan, ogni tanto. Dunque, ormai la situazione era francamente improponibile, o no? Ma perché a me, magari qualcuno parlasse in questo modo di chi? Di me. Ex ministro, non ha importanza. Ministro, se vuole, no, ci però, io posso. Tra l'altro, le posso dire una cosa che non so, sì, non è una presa in giro. Alba Parietti. No, però vorrei dirgli una cosa. Riconosco in particolare le voci, sì, più che qualsiasi altra cosa. Le piace la voce di Galan? La voce di Galan è eccitante. No, per lei. Aspetta, le dico una cosa e magari darà un fastidio tremendo, però è un dato di fatto. Potete confrontarle magari domani con calma. Voi tanto avete gli archivi. Assomiglia in modo impressionante alla voce di Tinto Brass. Quindi non io so pensavo, giuro, questo è meraviglioso. No, ma è un dato, non è veramente che gli sto facendo la regione è la stessa, credo sia Veneto anche il signor Brass. Certo, né Galan, insomma, cioè, ma lo state tartassando, povero. No, non è responsabile delle dichiarazioni della bulgara. Che ma no, sto dicendo che poi casualmente nel giorno in cui Berlusconi lascia, una signora bulgara rilascia un'intervista in cui dice che ho passato una notte meravigliosa. È un editto bulgaro questo. Esatto, è un editto bulgaro al contrario stavolta. Avete, ma date le cuffie agli ospiti, che funziona una sì e una no. Non funziona. cosa non funziona mai un cazzo. Ma come mai non c'avete più soldi? Anche siamo in difficoltà. Infatti, almeno non mi volete pagare neanche il taxi. No, il taxi l'ho pagato io con i soldi miei. Ho tirato fuori i soldi. Ho tirato fuori i soldi, poi me li rimborseranno, spero. Ma non è detto. Non è detto, non è detto. A me non è andato proprio niente, quindi è già andata meglio a te che a me, voglio dire. Al limite ci hai rimesso i soldi per il taxi, ma vuoi mettere? Ma che dovevamo darle? Scusi, beh, un compenso. Ah, un compenso per che cosa? Ma come per che cosa? Per l'apparizione, per la sua voce, per la sua prestazione. Per esempio, scusi ministro, per favore, perché veramente anche gli ex ministri non si chiamano ministri. Ma non importa, io trovo che sia giusto chiamarlo. Ha rivestito questo ruolo, in Italia c'è gente che non molla mai niente, non vedo perché non. Ma lui in questo momento non c'ha proprio un euro, non c'ha proprio un incarico, non c'ha uno stipendio, non è parlamentare. Io voglio chiamarlo, va bene? Ministro Galante. Lei si sente si sentiva in grado di fare il direttore del Maxi invece della Melandri? Cioè, sarebbe sentita in grado o no? Non so, non credo sinceramente. Non credo, ne ho fatte tante, ma anche questa non la potevo fare. Questa non si poteva fare. No. Questa io non la potevo fare. Tanti altri sì, però magari tanti altri tecnici esperti più della Melandri. Ma o no? Io non sono né una lei, tecnica, donna di sinistra, né un'esperta. Quello è sicuro. Quella è l'unica cosa molto certa. Di sinistra. Sempre. Molto più di sinistra di tanti altri. Più di sinistra di Bersani lei. Direi forse posso dire è difficile trovare una persona più tanto per cominciare me ne devi trovare uno che non ha preso 9 miliardi da Berlusconi, quindi quello mi sembra già un bel dato. Ma perché sta storia dei 9 miliardi? È perché è vera. Ma perché le hanno offerto 9 ancora? miliardi? Allora non siete gli unici che non la sapete. Ma sì, ma noi ci scordiamo allora tutto. Quando Berlusconi fondò, mi scusi, ex ministro, ministro, e ce lo sto rubando spazio, ma no, ma avevamo già chiuso Berlusconi. So fino a un secondo fa ero convinto che fosse una bufala come quella volta che facevano parlare Tremonti. No, no, è davvero. Forse. È davvero Parietti. Alba Parietti. Perché in mi scusa, carne voglio sapere una cosa: ossa. Siccome io di questa bufala non so nulla, con chi parlava Tremonti? Com'è? Io ero al telefono. Ah, quindi lei mi mette, mi fa piacere perché mi mette sullo stesso piano di Tremonti. No, di un sosia. Non faceva questo. Non ne dubiti neanche un attimo. Vabbè. Guardi, preferisce lei a Tremonti tutta la vita. Io beh, certo. Meno male. Questa è già una grande soddisfazione. Certo. Allora, mi scusi. Dove eravamo rimasti? Quando ai Berlusconi fondò Forza Miliardi, Italia, di nuovo, stavamo sta storiella. Dove era 94? Quale storiella? Ma è una voglio vedere te se te. A questa guarda, che questo qui è veramente un impunito. No, ma neanche io la ricordo, è francamente. Questa cosa, e voglio Parietti. Vedere se i soldi erano i suoi, se diceva una che bufala, era una storiella. Comunque, una bufala, vogliamo scommettere. Puoi chiedere a Berlusconi, tu ci parli con Berlusconi? No, ti caga. Per fortuna no. A te non ti caga Berlusconi. Ecco, allora Berlusconi mi convocò. Non ho mai avuto bisogno di parlare con Berlusconi. E vabbè, ti piacerebbe averci parlato con lui? Assolutamente no. Torniamo al fatto, signora Parietti, che allora, sbaglia. Andai. Sta messa come sta messa, io no. Lei scherzo, lei sta messa. Però quando fa così la stanno chiamando da casa. Non lo so, ma non posso casa rispondere. Paola. Lo so, se vuole rispondo io intanto. Sì, se vuole, ma scusa, metti che avessi chiamato un amante per dire tu rispondi. No, lei è un amante? Paola, sono in diretta su Radio 24, non posso, però hanno detto. Lei che è un amante? Ma io ne ho. Ma lei che gliene frega? No, ma interessante. Quante volte fa l'amore lei, signora Parietti? Gliel'ho chiesto anche oggi alla 7 e non ha voluto rispondere. Che una signora risponde a queste domande? Beh no, soprattutto signor Galani, lei quante volte fa l'amore? Ma sempre meno. Sempre meno di chi? La signora Parietti. No, guardi, non ci scommetta. Ma sempre meno rispetto a quello che facevo una volta. Ah, ma quello sicuro. Quello tutti, loro per ma primi. Lei qualche pasticchetta la usa? Ma dai, ma che volgarità. Ma che domande. Ma veramente, ma come no? Ma si ribelli, per ma Berlusconi usa le punturine e senta, io che posso, perché li ho praticamente vicini addosso. In modo addosso, posso tirargli uno schiaffo da parte addosso sua? Veramente lo trovo siamo assolutamente legittimo. Come si fa con i ragazzini scemi? Presente proprio così nella testa di la domanda è pertinente. Lei ha mai usato additivi per fare ma l'amore? Perché ma lui ti rispondo neanche, ma ha ragione. Allora significa che è vero. Perché se no uno dice di no, questi sarebbero gli giornalisti intellettuali. No, intellettuali mai. Io vorrei dirti, ma toglietegli lo stipendio. Ma abbiamo parlato di politica fino adesso, possiamo sbragare o no? No. Vabbè, vuoi sapere la storia dei 9 miliardi così rosichi? Sì. Allora, ma io non rosico per niente. Stava fondando Forza Italia e mi chiese di fare un contratto per Mediaset, ma questo non per fare cose che tu ti immagini, proprio per fare un contratto per Mediaset negli anni, era 94 credo, no? Sì, ma ci ha mai provato Berlusconi? Zero, te lo posso assicurare, mai, perché Berlusconi io credo che sappia sempre perfettamente chi ha davanti. Ah, per esempio, se avesse te ci proverebbe a bruciare. Vabbè, allora Andai da lui, io buona Bonaga, e Bonaga mi aveva in fervore contro Berlusconi, mi dice, no, che all'epoca era il suo fidanzato, professor Bonaga. Intanto arriva la notizia qui, politica 2013, Casini, faremo lista per l'Italia, Frattini che dice appoggio Alfano e non Galan, no, non ha detto non Galan, in realtà ha detto appoggio Alfano. La storia è vista rosica, perché non me la fa finire. Vabbè, allora, ma io insomma, non rosico, morale della favola, che alla fine Berlusconi mi offrì 9 miliardi per 3 anni di lavoro. E perché lei non ci è andata? Per fare cosa? Per fare un contratto per Mediaset per 3 anni di esclusiva. Non ci sono andata, perché siccome in quel periodo Berlusconi stava fondando un partito e siccome c'erano molti, sì, per principio, perché non per gli ideali. Sì, caro, sì, per gli ideali. Perché di sinistra? Ma non ci crederò allora, mai. Allora, scusami, quale altro l'altro motivo? Ma no, perché magari non mi sarei messi d'accordo, non lo so. Ah, secondo te 9 miliardi non mi bastavano? Voglio dire, ne ho guadagnati molto meno. Semplicemente perché siccome stava fondando un partito politico e semplicemente per il fatto che vedevo molti personaggi della televisione che si stavano schierando, non a me non mi andava comunque di fare un contratto che fosse stato di destra o di sinistra con chiunque stesse fondando un partito. Ecco. Punto. Ma lei andrebbe a votare per le primarie del PDL adesso? Cioè, no? Ci vado, non è del che PDL. No, del PDL. Ah, PDL, no, che... no, perché dovrei votare per un partito? Ma che ne so, mettiamo tutto, buttiamo tutto in caciara, che ma ci no, frega. Ma sì, ma tanto lo faranno già in tanti, secondo me ci del saranno del PDL che vanno a votare no, del PD. No, però tanti che vorranno votare per il PD che non sono del... che non so, tu per esempio secondo me voti lui ha già detto che vuole andare a votare. Io vado a votare per le primarie del PD come te, anche tu hai detto che ma io forse però per voto entrambe PD vado a dopo. Votare anche lui invece vota secondo Renzi, me è uno di quelli che vota. Io entrambe vado, io Renzi, non voti Renzi? No, non voto Renzi, io voto Vendola. Galan, lei chi preferisce? Vendola, lei, chi lei chi preferisce? Io chi ho una preferenza, non ho delle non Vendola preferenze vota. Ma io ho una preferenza. Lei chi preferisce che vince nel centro-sinistra? Secondo me vincerà Bersani. Però lei chi preferisce? Ma nessuno, nessuno non esprimo una preferenza, non mi interessa, un'altra cosa non mi riguarda. Ha ragione, ha secondo me ma non ci sono i blocchi separati. Sai, l'unica cosa che mi dispiace è che per esempio il fenomeno Vendola, che è una persona colta, intelligente, brillante, tutto quello, ma non si discute mai su come ha governato la Puglia. Cioè uscirebbe fuori un disastro. Uno che deve andare lei a governare l'Italia non si va neppure a vedere come ha governato la sua regione. Chiedo ai pugliesi questo. Beh sì, bisognerebbe. In effetti io su questo non sono in grado di dare un giudizio. Posso dirle ministro, ex ministro Galan, insomma Galan, io non sono in grado Galan di giudicare come ha amministrato la Puglia, per il semplice fatto che non vivo in Puglia. Credo che questo lo possano fare solo i pugliesi. Io ho visto delle cose che però mi sono piaciute, soprattutto di non ipocrisia. Io il motivo per cui voterei, glielo dico, Vendola, è perché rappresenta comunque una nuova generazione che a me non dispiace. È una persona che, è in Parlamento da una vita, è stato in Parlamento frega, un sacco ma di è tempo. Uno che vent'anni fa, quando si è presentato le prime volte alle telecamere di Costanzo. Lei lo capisce quando parla Vendola? Io sì. Sempre? Sì. Sempre, questo linguaggio un po' evocativo. Lo capisce sempre. Galan, senta, ma come vede Berlusconi al Senato come senatore a vita? Questo me lo deve dire però, al senatore a vita, addirittura Presidente della Repubblica, insomma... Ma avrà un ruolo, no? Al di là del tale scout, come ha detto lei, avrà un ruolo. Ma questo lo dovete chiedere, io vi dico quello senatore che a vita, va bene, senatore auguro, a vita. Ma, no, ma non ha importanza, non è importante. Non è importante. L'importante è che sia lì a insegnare le 100.000 cose che sa, le 100.000 esperienze che ha fatto. Lui ha ancora un sacco di cose insegnante, da anche tale scout è insegnante, no? Insegnante. I grandi professori hanno anche grandi allievi e l'Italia ha bisogno di grandi allievi. Siamo come lei, siamo come lei. Bene, sono le 20:18, mentre la signora Parietti mette a posto la sua borsetta. No, il rossetto. Sì, dai, il rossetto. Il rossetto perché voi mi avete chiamato dicendomi che sarei stata, il taxi sarebbe arrivato a prendermi. Non alle 8. Sembra lamentarsi, voi, si di sinistra, voi di sinistra sembra lamentarvi. Alle 8:15 mi citofona, ecco qua il taxi, sì, e mi dicono guarda che deve essere già qua. E io ho detto no, dopo. Ma non c'è bisogno sempre di truccarsi continuamente. Ma che vuoi che quanto tempo è che non vai in una casa del popolo, signora Parietti? Ma non esistono più. Ma io vado continuamente in una casa del popolo. Ma non esistono più, ma che stai dicendo? Non certo esistono che più. Esistono. Ma adesso dai, dimmi quella frase che di solito mi diceva la Santa, anche perché non vai, se sei di sinistra, perché non vai sulle spiaggette con gli operai? Io non dico stronzate. Io non dico stronzate. Ecco, ma lei come vede la presenza continua della Santa anche in televisione? Le dà un po' fastidio? Da donna? No? No, da donna. Io guardo, c'è tanta gente in televisione. Cambio canale. No, scherzo. A me Daniele è molto simpatica nella vita, voglio dire, facciamo la bagna cauda insieme, siamo più o Montelegre di Cuneo, io sono di Torino. Sì. Ci tiene a ricordarlo. Diciamo. E ogni tanto ci facciamo degli scambi gastronomici, andiamo a sciare anche insieme, eccetera, eccetera. Non la pensiamo su niente allo stesso modo. Andate a sciare insieme anche? Sì. Ah, sì. Sì, sì, lei c'ha dei colbacchi pazzeschi, retaggi. È un po' come la Melandri che andava da Briatore, la stessa cosa. Chi, la Santa anche? No, lei. No, perché io vado a casa mia, non vado a casa di Briatore. Vabbè, ma insomma, voglio dire, no. Ma perché? Allora, adesso cominciamo a smentire. Allora, se uno lavora onestamente tutta la vita, non ha cadavere negli armadi, si è guadagnato tutto, ha fatto guadagnare gli altri. Sì. Perché io col mio lavoro ho fatto guadagnare anche tanta gente, perché ho portato dei risultati. Non può essere di sinistra. Avrei già preso un calcio in culo. No, può essere di sinistra benissimo, guadagnandosi tutto da sola. Cioè, non puoi essere di sinistra quando tu in qualche maniera non fai fede. Cosa non le piace di Renzi? Mi dica cosa non le piace di Renzi. Non mi convince, non lo so, c'è qualcosa troppo, come dire, amico degli industriali. Allora io penso che questa è la Confindustria, appunto, però quello che voglio dire non è un delitto, non è essere amico della 'Ndrangheta, non è un delitto, però d'accordo, siamo d'accordo, però molto spesso però questo non fa proprio troppo vicino ai padroni, insomma. È troppo vicino ai padroni. Lei usa, le piace quello di avere padrone. Sì, padrone, insomma. Per essere di sinistra bisognerebbe essere un pochettino più empatici verso... Però vedo che è un grande successo, quindi non c'ha bisogno del mio voto, Renzi, ce n'ha già tante. Bersani invece, cosa che non le piace del signor Bersani? Gli esempi, un po' antico. È antico, sì, è questo sigaro in bocca. È un po' antico. No, quello sigaro in bocca a me... Fa maschio. Fa maschio. Peccato non... Non mi piace... Diciamo maschio, che se li frullassimo, possibile frullare. Riuscirebbe qualcosa Bersani, Vendola e Renzi. Di Renzi teniamo le camicie, che sono molto... belle, insomma, che è più sexy. Assomiglia della un po' a Renzi. Fonzi, Renzi, non ci avete mai fatto caso? Sì, è vero, ultimamente che ha cambiato lucco, no, il giubbettino quando in pelle. Si guarda davanti allo specchio, lo ricordate Fonzi quando si guarda allo specchio e dice perché mi pettino, non ce n'è bisogno, insomma, ha quell'aria. Chi è più sexy tra i due? Diciamola tutta. Chi? Tra Renzi Bersani e Renzi. Vendola, diciamo, lo mettiamo ma un po' fuori gioco. Voi volete proprio farmi chiudere col sesso? Fuori gioco. A chiudere col sesso. Ragazzi, tra i due si chiude col sesso. Ma anche con tutti e tre. Cioè, voglio dire, vabbè, non sono uno, il mio uno è fuori gioco, diciamo. Non sono il mio gioco. A me piace Javier Bardem, tanto per darti un'idea. Cioè, se tu mi trovi un Javier Bardem nella situazione... Lei Javier Bardem se lo sogna, diciamo. Perché, scusami, io ho avuto Christopher Lambert e tanti altri buoni. Ma già che lei è stata fidanzata con questo qui, ma questo... Christopher Lambert ha un'altra... Questo Crociani qua. Noi abbiamo la fidanzata di Christopher Lambert. Sì, scusi, facciamo l'elenco dei suoi storici fidanzati. Prima, sai quanti panini devi mangiare tu? Stiamo prima calmi. Io sono stata la donna più desiderata d'Italia per 20 anni. Sai quanti panini devi mangiare volta. Prima? Una volta. Ti assicuro, Crociani, non ti preoccupare. Quando fa così, Crociani, ma quando fa Crociani, così, no, faccio come ancora, Fede che ti sbaglia. E chi disprezza quando ma fa no, così ma è una certo, tecnica. L'abbiamo già detto oggi. Quando un giorno, io quella roba della cellulite non la racconto. Quella della cellulite un giorno mi ha detto che c'avevo la cellulite davanti al padrone di casa di una festa, pensate un po'. Signor Maranghi, lui pensa che con questi attacchi così alla carta, cioè no, raccontiamolo bene, lui cioè eravate a una cena insieme, eravate a una cena elegante insieme, eravamo una cena che... diciamo dove c'era un sacco di gente, da un signore da cui tra l'altro vedremo stasera, possiamo dirlo, signor Maranghi, e questo davanti al padrone di casa si mette a dire che io c'ho la cosa che, se anche se fosse stata vera, ma ti pare, parlavo di una volgarità in una volgarità, non è vero, ho detto forse hai messo su un po' di ciccia. Avrò detto una cosa hai di questo parlato tipo. Di vabbè, ma io non ho detto, per esempio, che trovavo che il costume ti rendesse, diciamo, piccolissimo, ma però voglio dire, piccolissimo, non l'ho capito. Ma quale costume? Io non l'ho detto, e la volta che ci siamo visti, tu hai visto la mia cellulite, io ho visto, insomma, cosa ho visto? Non ho visto delle parenti. Cose che, insomma, non erano che proprio quello umani. Che io speravo, insomma. Scegliamo. E invece qui sta diventando pecoretta. Cioè lei dice che il costume rende interessante questo. Rendeva il costume rendeva il signor Crociani. Ma sai che Crociani è più fragile di quello che ma pensavo? Ma quando mai? Perché è mi più lascio fragile. Perché faccio finta. È un uomo fragile. Subisco. È lì che sta attento, dice: "Dio, questa cosa dirà". Ma cos'è questa? Ma assolutamente. Cosa si notava nelle trasparenze del costume? Nulla, non c'era nulla da notare. No, ma quello che voglio dire, voi uomini pensate ancora di indebolire le donne con la storia dell'età, delle cose? No. Vecchia storia, oramai non vi facciamo un baffo. Ma quanti giovani è molto ricercato? Ma te che ti frega? Ma io così, non ho bisogno di promuovere la è mia una curiosità. Match, non ti preoccupare. È una curiosità. Non ti preoccupare, comunque, sono una donna risolta. Se fosse risolta. Per Bersani e per Renzi, il sesso sarebbe un fatto dimenticato da tempo. Però Renzi è un ragazzo anche... No, un po' fisicato. T'ho detto, mi ricordo un po' Fonzi. Vabbè, io Fonzi dico Fonzi e poi. No, infatti è un bellissimo ragazzo. Però non fa sangue, non le fa sangue. È un po' anche Mr. Bean. Sì, beh, sì, beh. Mr. Bean però è uno sfigato, scusi. Beh, no, però l'attore è un grande attore. E lui è un grande attore, in fondo, Renzi, secondo me. Cioè, più, in qualche maniera è un grande attore. Meglio come attore che come politico. Sesso, non fa sesso, signor Renzi. Io oddio, non voglio sapere i fatti di Renzi. Questi gli non è una cosa che fa sesso, non, cioè non ispira. Secondo me lui si ispira un po' a Mourinho, però deve ancora mangiare dei panini anche Renzi. No, sto scherzando. Stiamo dicendo una montagna di cazzate. Non ma so. Stiamo intervistando. Pensa a dire cose serie, non ho capito. Sì, io sì, tremendamente serie. Certo che la vostra presenza un po' mi manda fuori strada. E non c'è dubbio, noi infatti siamo quelli che fanno virare la trasmissione dalla serie dal cazzeggio. Ma ci riuscite benissimo. Ma perché nessuno pensa mai una sua candidatura in Parlamento? E questo io mi sono perché sempre domandato. Perché sono invidiosissimi del fatto che prenderei i voti, mi sembra un'evidenza. Lei si candiderebbe veramente? Certo, se mi dessero una candidatura. Sì, che farebbe in Parlamento Alba Parietti? Tutto, anche tutto. Le pulizie. No, ma come le pulizie? Cena, pranzo, colazioni, feste. Ma che farebbe? Ma veramente? Però adesso voglio dire, tutte le persone che sono entrate in Parlamento, certo. Non è sì. Che ci starebbe male. No, questo lo assolutamente. Devo dire. No, ma questa, vedi, questa premessa già fa un po' cagare, scusa. No, però allora, questo è vero. Se vogliamo dire, allora, io ho fatto militanza politica da quando avevo 14 anni. Tessera del PC, c'avevo la tessera della FIGC, se per quello che mi ha fatto della FIGC, sì, caro, chi era il suo segretario della FIGC? Allora, all'epoca non mi posso assolutamente ricordare, comunque c'era Fassino che mi fece la prima tessera della FIGC, ti do questa delusione, in Corso Casale a Torino, lui era io ho 14 anni, mio papà è un ex partigiano che ha fatto la resistenza, e mio nonno è Aridaia, invece tesoro mio mi dispiace, ma un padre ex partigiano è un padre ex partigiano. Ma certo, è un antifascista convinta, per eccellenza, sono un antifascista convinto, mio padre. Padre non ha mai indossato una divisa da balilla. Brava. Io non ho mai indossato una divisa neanche del mio partito. Ma sa, perché sono anarchica, dimmi. Sa adesso Alba cosa succede a Roma tra qualche giorno? Ci sono queste manifestazioni dei neofascisti che faranno la rievocazione della ma marcia su mi Roma. Mi sembra che D'Alema Alemanno abbia cose, no? Beh, ma mi sembra che anche Alemanno ma a proposito, ma dal signor D'Alema, che deve fare il signor D'Alema? Ricandidarsi oppure lui ha detto che se si ricandida c'è una cosa che mi ha incuriosita su cui bisogna approfondire perché lui ha detto che se Renzi vince le primarie lui riparte resta a combattere lì e perché? Perché vuole combattere, perché Renzi gli sta sulle scale, dunque se vince Renzi vuole fare Renzi, battaglia politica. Ma secondo voi sta sulle scale? Se la domanda ve la faccio io. Perché Renzi secondo voi non in qualche maniera questo vecchio diciamo PC, no? Questi vecchi di sinistra. Vabbè, perché la rottamazione, la sua parola d'ordine. Solo per questo? Ma no, ma non lo so adesso. Cioè io quello che ti voglio dire, io quello che mi domando e mi piacerebbe capire. Ma lei lo vorrebbe ancora in Parlamento D'Alema come donna di sinistra oppure no? Allora la parola rottamazione è una delle parole che mi fa più schifo al mondo, giuro. Cioè proprio mi urta i nervi, tanto che ci sono dei signori che hanno 84-85 anni, una tipo testa Don Gallo, che funziona molto che meglio magari di Renzi, ce ne fossero no? Di Renzi, di D'Alema, di hanno Bersani, da dire, hanno ancora da dire. Ma la rottamazione per quelli che stanno in Parlamento da 15 anni, però da 20 anni, questo allora, è il punto. Allora, la rottamazione per questi non c'è dubbio, tra l'altro c'era una legge che lo stabiliva. Dunque D'Alema sembra, fuori, no? No? Legge una no, cosa all'interno dunque D'Alema ha fatto delle cose molto importanti, non ne ha fatte altre che doveva però fare, via, per esempio no? Il conflitto di interesse durante il periodo di Berlusconi, certo è. Via o no? Le colpe le ha, ma sicuramente la parola rottamazione non fa parte del mio vocabolario. Però lei se lo vede in Parlamento irritante. Ancora nel 2013? Molto meglio di tanti altri, in fondo. Molto sì. Meglio di tanti sì. Altri. Sì. Meglio finché lui... ci sono certe facce da culo, scusatemi, ci sta e benissimo. E chi sono le facce da culo, tante. Scusi? La prima faccia da culo. Ma voi siete pazzi. Io secondo voi vengo qui a gratis a prendermi una querela, non sono mica Sgarbi. No, cari. Pagate voi? Alba Parietti è stata con noi. Vi impegnate a pagare voi? Pagate voi? È stata con noi a gratis. Paghiamo noi. Non è ancora paghiamo noi. Gratis. Perché dobbiamo pagare noi? Che dobbiamo pagare la cena stasera. Ma quando mai? Ma non ci abbiamo regalato non questo splendido tantissimo. Ma assolutamente no, assolutamente no. Ma non esiste, ma nemmeno un Cruciani le offrirà la cena solo ma Cruciani, non esiste, stasera. Ma non perché esiste. Anche Tirchio, oltretutto il resto non offre mai cene alle donne, mai. Molto mai. Ma io lo conosco da anni, vuole farsele offrire lui, sì, capito? Sì. Cruciani, grazie Alba Parietti. Me sfondi una porta al contrario per paghi. Eccoci qui, 800 24 00 24, Augusto da Firenze, buonasera. Buonasera. Vada. Allora, dunque, ho appreso dalla vostra trasmissione che una dipendente dell'Emilia Romagna sarebbe stata messa sotto indagine perché, pur avendo un compito e quindi ricevendo uno stipendio dalla regione Emilia Romagna, svolgeva in realtà attività di carattere esclusivo della segreteria dell'onorevole Bersani. Questa è l'accusa, sì, questa è l'accusa. Eh? Questa è l'accusa, certo. Questa è l'accusa. Istintivamente mi è venuta a mente una vostra amica, troppo spesso presente alla vostra trasmissione, e mi riferisco alla non onorevole, perché non è deputata, sì, Daniela Santanchè, pensando che lei ha svolto il sottosegretariato presso il Ministero del Controllo della Programmazione, e che se qualora non avesse attuato i compiti specifici di quel ministero, si fosse dedicato esclusivamente a propagandare il berlusconismo alla televisione, alla radio, dappertutto. Se così fosse, potrebbe essere anche indagato il ministro Rotondi per mancato controllo dei doveri dei suoi sottosegretari. Insomma, c'è un rischio. Ma non ho capito, qual è l'accusa alla Santanchè? Non ho capito bene, scusi Augusto, non ho capito. Non ho capito le accuse alla Santanchè, ma lo spiega un attimo. Potrebbe essere questa. Lei aveva un compito come sottosegretario. E allora che c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Entra nel senso che... Ma sono due cose diverse, quella roba lì... Scusi un attimo, però adesso non si possono dire stupidaggini. La Santanchè potrà avere pure tutte le colpe del mondo dal punto di vista politico, ognuno ha la sua idea. Però qui è un funzionario dello Stato, un dipendente della Regione Emilia Romagna, che viene accusato di essere andato a Roma a fare un lavoro per conto della Regione Emilia Romagna che poi non avrebbe fatto perché ha le dipendenze del Partito Democratico, in particolare di Bersani, punto e basta. Cosa c'entra con Santanchè, ministeri e cose di questo tipo? Amica, ogni fatto ha una sua specificità. Grazie. Alessandra D'Arezzo, fra poco collegamento con la Sicilia. Aia. Alessandra, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Senta, ma l'ex ministro della cultura Galan c'è sempre? Sì. No, non c'è. Io volevo chiedergli se era stato lui a scegliere proprio il curriculum, se l'aveva proprio studiato, del responsabile della biblioteca dei Girolamini a Napoli. Non lo so, quello che si è rubato un sacco di libri. Quello che usciva col camion con i libri. Vabbè, peccato, buon lavoro, grazie. Grazie a lei, comunque glielo chiederemo. Gino dalla provincia di Macerata, poi Sicilia. Gino, provincia di Macerata. Buonasera. Vada. Sì, la sento. Allora, io volevo parlare volevo difendere la sentenza avvenuta all'Aquila rispetto alla Commissione. È uno dei pochi che difende quella sentenza, però va bene, eh? Il ministro dell'Ambiente Clini ha parlato di Galilei anche oggi, eccetera. Comunque. Esatto, e mi pare una grandissima fesseria che inverte i termini del problema. Cioè, qui abbiamo una serie di signori che si sono arrogati facoltà predittive, cioè il contrario, la scienza è diventata arrogante, mi pare che sia questo il problema. Hanno detto che non ci sarebbe stato, diciamo. Esatto, no? È quello il problema. Sì, ho capito, ma uno non è che se dice che non ci sarebbe stato deve essere condannato a 6 anni. Scusi, abbia pazienza, Gino, mi sembra comunque una follia. Però detto questo, aspettiamo le motivazioni. Non ha fatto morire nessuno. Non hanno fatto morire, quelle previsioni non hanno fatto morire nessuno. Questa è una deduzione. Vedremo le motivazioni, però uno può giudicare anche le sentenze. Beh, certo, francamente, ci mancherebbe. Mi sembra una sentenza unica nel suo genere nel mondo, non esistono precedenti di questo tipo di sentenze che hanno condannato scienziati o comunque commissioni di questo tipo per aver detto in un documento, sarà stato sbagliato scriverlo eccetera eccetera, che il terremoto non ci sarebbe stato. Per cui vedremo. Dipende che ruolo ha avuto poi questo documento nel prendere delle decisioni. Cioè, stiamo discutendo. Cioè, invece, sono cose importanti. Perché voglio dire, non è che stiamo parlando anche di se UFO, uno è uscito da casa leggendo questo documento. È troppo serio. Cosa significa? Cosa. Cioè, non è che stiamo parlando dei Maya. Non è che uno scienziato ha detto ci saranno i Maya, la distruzione del mondo. Ragazzi, bisogna vedere che peso venne poi dato a questo documento sulla base delle questioni che lui aveva posto. Poi mica per difendere sempre i magistrati. Per difendere sempre i magistrati. Chi se ne frega, cerchiamo di leggere le motivazioni della sentenza. Abbiamo il candidato di Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, oggi un po' di pioggia ha rinfrescato le idee di un un po' di tutti i siciliani, finalmente, perché eravamo in maniche corte, adesso abbiamo finalmente messo un po' il giubbino su. Scusi, cancelliere, perché non fa nuoto anche lei lo stretto come ha fatto Beppe Grillo? Sì. Ce la farebbe lei a farlo? Assolutamente no. Ho 37 anni, ma non sono allenato. Mi dovrei allenare. Beh, anche Grillo non mi sembra in forma, scusi. Però mi scusi se offendo la divinità. No, ma quella è divinità, ha la pancia, però è in forma, insomma. Ma è in forma, è in Beh, forma. Si è allenato tutta l'estate. Si è allenato tutta l'estate. Tutta l'estate, si è allenato in Sardegna, come no? Sì. Ha passato l'estate ad allenarsi per affrontare questa prova, certo, questo sì. Vabbè, tutta l'estate. Comunque, lei non lo farà, cancelleri. No, non lo farò, io andrò a governare la Sicilia. Beh, a governare la Sicilia un attimo, calma. C'è una cosa che si chiama elezioni. Lo sapevo, dai, era una battuta la mia. Sì. No, sì. Scusi, però io sono incuriosito da quello che c'è scritto nel suo curriculum, lo sa? È un curriculum di attivismo che lei ha pubblicato sul sito e questo è assolutamente meritorio, però c'è una frase che mi ha incuriosito: sono convinto nel valore dell'uomo, essere buono e capace di azioni straordinarie. C'è scritto così. Ora, per carità, va benissimo, non c'è scritto che lei è un delinquente. Sono convinto nel valore dell'uomo, essere buono e capace di azioni straordinarie. Mi sembrava la biografia di Papa Giovanni XXIII. Di Don Giussani. No, ma io credo nell'uomo. E vabbè, questo. C'è un approccio, c'è chi pensa che il prossimo ti deve fregare. Io invece penso che il prossimo sia una persona che ti può aiutare, che ha sempre qualcosa di buono da spendere. Allora io credo nell'uomo in questo modo, secondo me lei non è uno che manda a fare in culo la politica come fa Grillo, cioè quando i vaffa di Grillo non li sopporta lei. Ma io non so, non è che non sopportiva. Se siete tutti morti, siete tutti morti. Com'è che dice Parenzo? Morti, siete tutti morti. Tutti morti, larve che camminano. Io mi relaziono in maniera diversa con i miei avversari politici ed è ovvio e normale. Cioè non dice che sono tutti morti, diciamo la verità. No, camminano, si muovono. Camminano, ovviamente. Si muovono, non sono morti. No, non sono morti perché quella è l'estremizzazione che fa Grillo, fa anche bene, perché lui, il suo punto di vista è quello lì e a me mi può stare anche bene. Io mi relaziono da candidato alla presidenza della regione, devo dare un valore umano ai candidati che sono i miei avversari, per cui li rispetto innanzitutto come persone. Poi non posso essere d'accordo con il loro modo di fare, con loro modo questa di è un'altra cosa, che certo. Ho avuto in questi anni ed è opinabile per me. Però cioè non sono morti che camminano come dice Grillo, no? Diciamo in una frase che io non sono Beppe Grillo, che forse è meglio. Vabbè, comunque. Le posso fare un piccolo test sulla Sicilia? Quanti dipendenti ha la Regione Sicilia? A vario titolo, fra forestali, esternalizzati e dipendenti a tempo determinato, sono circa 144.000. No, però i dipendenti della Regione, non gli esterni, esternalizzati, proprio i dipendenti della Regione Sicilia, senza considerare i forestali. Quanti ce n'ha? Sono 22.000 e 2.200 dirigenti. Beh, è preparato il signor Cancelleri, è molto preparato. La Sicilia quanti abitanti ha? Sono circa 5 milioni. 5 milioni, giusto. La mafia c'è? È certo che c'è la mafia, è ovvio, ma c'è anche dalle vostre parti. Sì, beh, questo... non c'è dubbio, su questo, è ovunque. Scusi, quando fu lo sbarco degli alleati in Sicilia? E dove? È stato a Marsala, se non ricordo male, 1862. 800? No, 1800, 800. Sbarco degli alleati. Alleati, mi scusi. E dove fu? Mi sembra che sia a Gela, se non mi ricordo male. Vabbè, 1900. Insomma, nei dintorni, in che anno? 1945? No, 43, vabbè, 43. Ma comunque, sulla storia non siamo molto preparati, sulla storia della Sicilia siamo meno preparati, vabbè, ma comunque non è gravissimo. Guardi, le gaffe le fanno tutti, non c'è problema. Scusate, Beppe Grillo ha detto, come lei sa, che la mafia non strangola, no? Una frase fu molto contestata, lei è d'accordo con questa frase? Allora, quella frase la dobbiamo prendere nel contesto in cui l'ha detto. Cominciamo a fare il politico. Non faccio il politico, mi faccio finire la frase e poi dice se sono stato politico o meno. Stavo parlando di fisco, stavo parlando di pressione fiscale sui cittadini, stavo parlando del fatto che la Ferit, perché da noi Equitalia si chiama Ferit, strangola i cittadini, mentre invece la mafia ha gettato lì il paradosso. Cioè la mafia non uccide chi non paga il fisco, glielo abbassa, mentre la Ferit chiude l'azienda. Beh, insomma, ha fatto un paragone. Era sbagliato questo paragone o no? Impro- sì, secondo me sì, una terra come la Sicilia è improprio, sì. È improprio. Sono... Ma lei gliel'ha detto, no, a Grillo o no? Alle volte stai zitto, certo, io... No, ma è un uomo, sbaglia anche lui. Cioè, non pensate che, cioè, noi non lo saniamo, non lo idolatriamo. È una persona che sbaglia, sbaglia lui, sbaglia anche io. Cioè, se lo devo andare a cagare, lo mando a cagare pure io. Non beh, col signor Favia, cioè, le cose non sono andate proprio così, cioè... Ma Favia, io credo Fabio, che si sia presi, sì, se li sarà presi anche lui i suoi i suoi video, se li sarà presi anche lui. Io non voglio prendere quello che ha detto lui, perché per me è stato molto offensivo quello che ha detto Favia. Noi nella nostra campagna, sì, cioè, nel nostro percorso per costituire le liste e il programma, non abbiamo avuto ingerenze né dall'alto né dall'esterno né da Grillo né di Casaleggio, eccetera, eccetera. Senta, ma il pizzo c'è ancora in Sicilia? Video che parlano. Il pizzo c'è ancora in Sicilia? Certo che c'è ancora. C'è? Certo che c'è ancora. Alla grande, ma è diffuso come prima oppure no? Non lo so se è diffuso, perché io non ne ho conoscenza, le darei un dato che non conosco, però le posso dire con assoluta certezza che sicuramente non è più in mano alla mafia, nel senso che il pizzo è una cosa che ormai è da dilettanti. La mafia veste in doppio petto e parla in inglese, probabilmente non risiede neanche più in Sicilia. Il pizzo è demandato sicuramente da piccole associazioni criminali che non sono riconducibili ad ambienti mafiosi, però c'è, quello è in dubbio. Scusi un attimo, ma è curioso che le piazze siano sempre piene in Sicilia durante i comizi di Grillo. Io ho una piccola teoria, che magari sarà anche offensiva, però sono qui per spettacolo questo. Spettacolo gratis. Sono qui per... c'è uno spettacolo gratis, diciamo la verità. Cioè, in Sicilia non è che Grillo viene tutti i giorni. Cioè, non è che ci sono spettacoli di questo tipo tutti i giorni. Di un comico gratis. È uno spettacolo stasera. Di un comico a gratis. La gente gratis va lì, mangia una bella granita. Gente va lì, mangia il cannolo. E lo vede un po' come uno spettacolo. Per carità, va benissimo, però insomma, no? Ma allora questa. Ma non è una cosa negativa necessariamente? No, ma io non sto dicendo niente, non dico negativo. Io dico, questa cosa avrebbe senso e sarebbe vera se, finito di parlare Grillo, quando parlano i candidati, la piazza si svuota. In realtà invece rimangono tutte le persone lì al loro posto ad ascoltare, ad applaudire. Beh, adesso tutti lì al loro posto addirittura. Ma guardate i video. Siamo ogni sera in diretta streaming, anche stasera, quando alle 21 saremo a Catania, piazzatevi lì davanti e dopo che avrà parlato Grillo guardate un po' la folla. Cancellare un attimo solo, abbiamo il traffico, torniamo subito. Candidato del Movimento 5 Stelle in Sicilia, fra poco gli chiederemo a chi stringerebbe la mano dei suoi avversari. Allora, mi dicono una cosa, sto parlando con Cancelleri, candidato al Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, ma lei è autorizzato a fare interviste da Grillo? Certo, ma non è che mi autorizza lui. Beh, rispondo come no? Io se mi va. Ah, risponde lei? No, però non c'era. Aveva fatto un regolamento. C'era una sorta di imposto. Non abbiamo nessun regolamento. Non c'è questa. Cioè, fate come vi pare. Il Movimento 5 Stelle, fate un po' come vi pare. Diciamo la verità. Ma io sono candidato. Voi mi chiamate. Se vi va di rispondere, rispondo. Se no, no. Cioè, lei fa quello che vuole. Di Grillo me ne fotto. Questa è un po' la questione. Ma Grillo non è che io di Grillo me ne fotto. Semplicemente lui non ha mai imposto nulla. Beh, no, questo. Ma questi in alcuni casi. In alcuni casi ha messo la mordacchia. Sul fatto di andare in televisione lo ha detto esplicitamente. In televisione, in radio, nelle trasmissioni lo ha detto, a un certo punto lo disse esplicitamente. Che non bisogna più andare ospiti nelle trasmissioni, eccetera. Lei dunque si ribella a questo diktat, diciamo la verità. Ma no, non c'è mai stato un diktat, vedi? Voi ve lo volete infilare per forza. Io a me non ho detto mai niente, io mi sto facendo le mie interviste, video, radio, tutte quelle che ci sono, se mi va rispondo, cioè se sono libero, come stasera, insomma, mi sono reso libero, dovevamo farlo ieri sera, non è stato possibile, l'abbiamo fatto stasera, dico, ma non c'è nulla. Mi fate quel numero di telefono di prima, resti lì un attimo Cancelleri, c'è il numero di telefono di prima che dobbiamo fare, che mi prudono un po' le mani. La voce anche. Combattuto poco stasera, combattuto pochissimo stasera. Lei stringerebbe la mano a Musumeci? No amici, perché? Perché è un uomo di altri tempi. Un uomo di altri tempi si stringe la mano pure. Anzi, per educazione? No, perché mi ricorda qualcuno a cui non stringerei la mano. Cioè chi? Qualcuno che ha a che fare con un ventennio. Ah, addirittura ricorda Mussolini. E Michigay invece? No, Michigay minimamente, no, assolutamente. Niente, perché? Chi rappresenta Michigay? Che ha fatto? No, Micichè ha fatto quello che ha fatto durante il suo mandato al ministero, si faceva portare la, cosa? Le polverine. Le polverine come? Cosa? Non cosa? So, cos'è sta storia? Cos'è questa storia? Portare, si faceva portare la coca, eh? Al ministero? Al ministero? Sì. E per questo non, ah, si, per questo non stringerebbe la mano? Che c'entra? Cioè, scusi, non è a favore della legalizzazione lei? Ma no, non mi piace questa storia, ma... Cioè, non le piace il fatto, quello che ha detto prima, cioè, che si faceva portare... Cioè, lei dice, l'ex ministro... No, non gli stringerei la mano. Non gli stringerei la mano. Per quello che ha fatto nella sua vita. Non e mi piace. Crocetta? Non gli stringerei la mano perché è una persona che disattende il proprio mandato. Perché? Che ha fatto? Si candida a sindaco. A destra manca, dice lei, no? Sì, non mi piace. Perché è europarlamentare, prima era sindaco di Gela, ha lasciato per l'Europarlamento e adesso da europarlamentare si candida alla Regione Sicilia. Però su questo devo dire non ha tutti i torti, cancelleri, perché cioè lei non questo... riconosce i suoi avversari sostanzialmente. Non riconosce i suoi avversari, diciamo la verità. No, li riconosco tutti senza problemi, però non... Ma chi è il più amico di mafiosi, per esempio, tra i suoi avversari? No, ecco. non lo so. Non ci credo, sono. Non lo so. Cioè da so, questo punto so. Di vista siamo tranquilli, no? Possiamo dire no. O le liste sono piene di mafiosi, le liste per esempio di qualche candidato sono piene di mafiosi. No, le liste dei tre che avete nominato non dico che ci sia la mafia, però sicuramente ci sono persone inquisite e condannate, ma questo non lo dico io, lo dico nei giornali. No, ma chi è, voglio dire, dov'è il vero pericolo, in quale candidato c'è il vero pericolo della mafia nei suoi avversari? Non lo so e spero in nessuno. Cioè, ho capito, ma quello che le mette più paura da questo punto di vista? O le dà meno sicurezza? Ma... tra i tre Crocetta le dà meno sicurezza, cioè il sindaco antimafia le dà meno sicurezza dal punto di vista della ma non è lui perché c'è l'UDC perché c'è l'UDC sono le persone che l'accompagnano. Ah, lei mi sta dicendo quello più in odore di mafia alla fine è Crocetta. No, io non ho detto questo. È quello che le dà meno sicurezza in materia. No, questo ha detto. Questo è quello che le dà meno sicurezza da questo punto di vista è Crocetta. Sulla vicenda dell'antimafia è Crocetta. Ma non per Crocetta, ma per i suoi alleati, per giusto? Per quelli che l'accompagnano. Questo ha detto. Va bene, cancelleri, grazie, buona campagna elettorale. Mi raccomando, quel grillo lì in giro per la Sicilia. Insomma, Non mi avete chiesto a chi l'avete stretta la mano. Chi la stringerebbe la mano? Alla Marano. Ah, vabbè, all'altra, l'ultima candidata. Io non la consideravo perché nei sondaggi è messa un po' male, mi sembra. Però io l'avrei stretta la mano. Va bene, grazie. Saluti. Okay, grazie, buona serata. Paolo da Vicenza, buonasera. Paolo, dica. Veloce. Non c'è più. Domenico da Bari. Sì, pronto? Vada, dica. Sì, buonasera, Cruciani. Deve dire velocemente perché siamo in conclusione. No, io volevo parlare a proposito del discorso del ministro del lavoro. Per i giovani che non devono fare gli schizzinosi. Ma il discorso andrebbe sviscerato con altri tempi. Per cui ci sentiamo domani tranquillamente 18:30 in diretta alla Zanzara. Vive e lotta insieme a voi. Va bene. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.